Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Pronto? Antò! Chi è? Chi parla? David Parenzo! Oh, ciao David, come ma stai? Ma l'immortaccia, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi. Quando adesso. Vuoi. Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, mi sto per te, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestito, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Allora fateli cazzi tu, no, vaffanculo. Ma io non lo so. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sogno un mondo dove le parole frocio, le parole negro, obeso, ciccione, pelato, zoppo, storpio, cieco, puttana, non vengono più usate. Sei Asmodeo, sei. Un mondo dove nessuno è più preso in giro. Fratello. Un mondo dove regna la fratellanza, la gentilezza, la cortesia, dove ci si tiene tutti per mano. Lo sogno. Poi però dopo un po' mi sveglio e finalmente mi rendo conto che era solo tutto un brutto incubo. Asmodeo, vai via! Perché il cane rognoso Parenzo, io rispetto tutti. Davide Parenzo, sei? Lores la Veneta che chiama Parenzo cane rognoso mi fa arrabbiare come un orso marsicano. Cane rognoso. Insomma io accendo la radio e debba ascoltare quell'australopiteco fascista di merda di Cruciani e quel cetaceo spiaggiato sul letto lì ad Abano che discutono bellamente contro la legge sull'omofobia. Due animali che non capiscono una minchia di come la giurisprudenza si modifichi negli anni in base alle nuove fattispecie. E loro disquisiscono, discutono, sono contro questi due rincoglioniti cerebrali che non capiscono un cazzo. Una balena e una scimmia che si gratta il culo dal giorno alla sera. Ma vaffanculo. Grazie di cuore per la cortese attenzione anche oggi nei nostri confronti. Iniziamo dal nord oggi, iniziamo dal nord, dal Veneto, sempre su quel cazzo di letto da Abano Terme. Alberto Gottardo, applausi. Il applausi. Lettuccio magico, come direbbe il Brasile, il lettuccio magico. Da Roma, che... da Roma, la vigilia. Il cane rognoso da esatto, Roma, il è cane una citazione rognoso. Dotta. Vai, perché vai, Reagan... Lores. Reagan chiamava così Gheddafi, il cane rognoso. Da Roma alla vigilia delle festività ebraiche, bravo. Diciamolo, alla vigilia delle festività ebraiche. Non farmi dire nulla, non molto farmi bene. Dire niente. Domani è Capodanno ebraico. Non farmi dire nulla, alla vigilia delle festività ebraiche, David Parenzo. Eccoci buonasera, cari amici. grazie naturalmente all'emittente che ci manda in onda, e ringraziamo anche che così non il direttore nominare, che non dobbiamo, no, nominare. Dobbiamo nominare, ringraziamo comunque il direttore del Sole 24 Ore, ma anche e soprattutto il direttore del Corriere della Sera. Ma che c'entra? Fontana. Ma che cazzo così, c'entra? Così, ma non c'entra una minchia, perché è il direttore di uno dei tuoi editori, porca sì, la gran puttana. No, ma no, no. Ringraziamo pazzesco, allora anche il gruppo Jedi, automaticamente. Giù. Allora ragazzi, la cosa più comica di oggi è il clandestino tunisino, io lo ripeto, il clandestino tunisino, il quale dopo aver detto è morto come un cane, cioè Don Roberto, temeva per i complotti per rimpatriarlo, mi seguono dappertutto e per questo a giugno ho comprato un coltello, dopo aver detto, praticamente ha confessato l'omicidio del prete, oggi ritratta tutto, non l'ho ammazzato io. Ragazzi, siamo alle comiche. Questo signore uscirà fra poco dalla galera. Quanto no, volete scommettere? Voi due buonisti del cazzo. Non è vero, no, come no. Anche se no. Dai, allora, uscirà dalla Giuseppe, galera. No. Io credo che tu non abbia mai fatto la cronaca giudiziaria. Ma non me ne frega un cazzo della cronaca giudiziaria. Non sai. Eh no, non te ne frega un cazzo, però non sai. Che anche se costui non fosse imputabile, comunque può essere mandato di 10 anni in 10 anni. Ma che cos'è questo, il codice in un ospedale Rocco? Ma cos'è la spiegazione del codice? È cosa penale. Ma cos'è, un giorno in pretura conduce Alberto Gottardo, penale. Ma che roba, ma è? Insegna la procedura penale alle 18:39. Dai. Santa anche scusa, ormai giù tutti. Adesso mi avete rotto il cazzo, intervenite quando dico io. Santanché, il prete ammazzato da un immigrato clandestino, diciamolo. Allora, perché il refrain qui è: quelli che dicono i giornaloni non ne parlano, ma non è vero che non ne parlano, cioè tutti i giorni qualcuno ne parla, trasmissioni, giornali, eccetera. E poi diciamolo che è un immigrato clandestino, sì, lo diciamo, d'accordo, benissimo, questo è giusto dirlo. E continuano a dirlo, peraltro, quindi è un argomento che non funziona in realtà. Non lo dice nessuno, lo diciamo noi. Ma non è vero, poi. Su tutti i giornali c'è scritto, su tutti i giornali, tutti, maledetti voi, tutti. Mi piacerebbe che quando viene ammazzato un prete meraviglioso che si occupa degli ultimi, che viene ammazzato da una persona che nella nostra nazione non doveva stare, che allora? Aveva in tasca il foglio di espulsione. Dunque? Si avesse tutto il coraggio di dire che è un immigrato clandestino. Lo diciamo, infatti. Mi piacerebbe che l'umanità fosse questa. L'umanità. Ma lo diciamo, ma non è che questa signora, è l'umanità. La stessa che poi se la prende coi preti che aiutano gli ultimi. Sì, perché sì, è la stessa che poi dice: aiutate gli italiani prima. E non gli italiani prima. Aiutate che scandisce le parole. Aiutate gli italiani prima. Io da Cuneo ho sempre lavorato. Quello che abbiamo visto sul giornale in questo giorno, dopo l'uccisione di Don Roberto, fa letteralmente schifo. Certo. Come oggi si vogliono nascondere le verità. Come oggi non si può dire che un immigrato clandestino che non doveva stare nella nostra nazione, ammazzato un prete, i grandi giornaloni, i grandi giornalisti non vogliono usare quelli che sono gli aggettivi giusti. Ma non è vero, ma scusa, cara Daniela, ma sono giorni diglielo, che tutti però, quanti. Diglielo, ma io lo dico, diglielo, ma io lo sto, diglielo, ma io lo sto dicendo, ma io lo faglielo notare, perché io lo vuoi sto dire. Dicendo, diglielo, però, ma io lo sto dicendo, più di questo diglielo che devo fare. Dai, diglielo senza paura, sì. Su. Ma lo sto dicendo. Dai. Parlano tutti, sin dal primo istante si è scritto e si è detto immigrato tunisino clandestino, non solo qui, non solo su Il Giornale, non solo sul Libero, non solo su La Verità, esatto. Non solo al TG non so che cosa, ma anche al TG1, al TG3, ma io lo sto dicendo, più di questo onda, che gli devo dire. In onda, ma sono in onda. Sì, roba pazzesca, dai. Allora, poi uno dice che a cosa servono le università. Leggevo l'altro giorno che secondo uno studio scientifico condotto dall'Università della California, secondo me non esiste questa Università della California, le ragazze che praticano quotidianamente attività sportiva come la bicicletta aumentano in maniera significativa il proprio desiderio sessuale. La ricerca scientifica si è svolta su oltre 3.000 donne, tutto falso secondo me. Gli scienziati hanno scoperto che la frequenza di pedalata è associata a una migliore funzione sessuale. Ciò porta dunque a credere che il ciclismo possa migliorare in maniera significativa la salute sessuale delle donne. Lo studio ha dimostrato, sottolineano lo studio questi cialtroni, ha dimostrato che le donne che vanno in bicicletta ad alta intensità fanno più sesso con il proprio compagno. Dallo studio si vede anche che le donne sono maggiormente predisposte all'incontro sessuale, in loro il desiderio è più elevato rispetto a quelle donne che non praticano il ciclismo. Ragazzi miei, Io ho conosciuto, immagino anche Gottardo, su Parenzo non mi esprimo, ho conosciuto una moltitudine di femmine, una moltitudine di femmine che, pur non praticando alcuna attività fisica, pur non andando in bicicletta, scopavano come dannate. Avevano un'attività sessuale intensissima. Dimmi, se portami. Posso portare il mio piccolo contributo? Piccolissimo. Io ne ho conosciute due che facevano non ciclismo, ma equitazione. Erano due porche di prima categoria. Ma cosa c'entra questa? Questa è un'esperienza personale. Mamma mia, due di equitazione. Ma ho capito, ma non c'entra nulla. Però, ma non c'entra nulla adesso. I cavalli con la bicicletta. Come si fa? Sempre sella. Ma lo studio secondo il quale tutte e due una roba incredibile. Se lo studio secondo il quale una che va in bicicletta fa più sesso rispetto a un'altra, ma come cazzo vi viene in mente? Ma lo da dove sfregamento viene? Direbbe Spatadino. Dai ragazzi. Allora, a proposito di fascismo, ogni tanto viene fuori la questione di Mussolini ha fatto cose buone, no? Classica frase, Mussolini ha fatto cose buone. Iva Zanicchi pure si esprime. Iva Zanicchi, non possiamo negare quello che di buono ha fatto Mussolini. Io devo difendere a spada tratta Fausto Leali. Oh, non diciamo paroloni. Bravi. Allora, però Fausto Leali forse si è espresso male. Bravo. Lui voleva dire che il signor Benito Mussolini, a partire dal 38, per l'amor di Dio, con le leggi razziali, che è stata una cosa orribile, da vergogna, poi la guerra, le cose, non parliamo. Però prima, pur essendo un dittatore, diciamola così, non possiamo disconoscere quello che ha fatto. Oh. O lo vogliamo nascondere, siamo tacciati di fascisti. C'è la cosa, perché volete nascondere? C'è sempre il refreno, perché volete nascondere? Nessuno. Io ho sempre lavorato, maledetti. Ma perché usano? Ma che cazzo vuol dire? I giornaloni nascondono. Zanicchi contro Luxuria. Senti, il grande confronto. Zanicchi Luxuria su Mussolini, che tutto scontro. Questo dalla D'Urso, ragazzi, io godo. Io però dalla D'Urso si parla di Mussolini e Hitler, ma non c'è da godere, ragazzi. Ormai è tutto così. Dai, Zanicchi contro Luxuria a parlare di Hitler e Mussolini, ma non è bellissimo? Ma io lo trovo straordinario. Dai, su. Dire a Iva Zanicchi, dimmi, è vero che la stazione di Milano è fatta in stile fascista, allora? Però vorrei ricordare a Iva Zanicchi che da quella stazione partivano treni, Ventura, i treni che portavano gli ebrei ai campi di concentramento. Tiriamo giù la stazione di Milano, dai che funziona il confronto sul fascismo tra Luxuria e Iva Zanicchi. Mamma mia, sarà meglio questo piuttosto che gli storici. Mia. Dai che funziona. Fermo là. Cos'è che è successo? Parco Verde, Caivano. A Reggio Calabria? Napoli. Ah. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Ogni cagata che dice quel minchione di porro tu la devi mandare sempre in onda. Porca puttana, sei uno zerbino del cazzo, Cruciani. Sei un cazzo di tappetino per i piedi. Top Talk! Primo giorno di lavoro in Ernest Young, Lussemburgo. Vado all'ultimo piano, lascio mezzo chilo di cagata nel bagno del partner e non scarica più e sciottura. Ernst Young. I love my radio. Mamma mia. Ernst Young. Un Lussemburgo. Ma come si fa a distruggere un marchio come questo? Andrebbe identificato. No, ma tu anche che lo mandi in onda, che distruggi una grande multinazionale come Ernst Young, grande società di consulenza. Perché uno non può cagare nei banchi di... In passato svolsi anche qualche autorevole convegno. Per la quale inciso nel recentissimo passato. No, purtroppo, ecco, questa è una lamentela. Okay, ragazzi, posso dire una cosa? Molti si sono stupiti di questa foto che circola nei WhatsApp, nel web, eccetera, della metro di Roma, foto shock di un passeggero che sniffa cocaina sulla banchina davanti a tutti. Pazzesco. Ma di cosa vi stupite? Non ho capito. Un tizio che si prepara una striscia di polvere sulla banchina con una banconota, la pipa, eccetera. Ma certo che fa schifo, ma chi dice il contrario? I bambini, allora che c'è, dillo, bambini, ragazzi, che c'è, i bambini. Beh, insomma, ma di cosa vi stupite? Ma cosa è impressionante? Uno che sniffa cocaina, che cazzo me ne frega sulla della banchina? Della totale disprezzo di qualunque senso del luogo pubblico, del tu vuoi farlo, fatelo a casa tua, ma non davanti a tutti in modo così barbaro, proprio incivile. A parte che, ragazzini, se uno sta lì a sniffare così non capiscono un cazzo, scusami, cioè, se uno si mette a sniffare, sì, che cosa sta facendo? Anche quello questo sta... è normale, secondo te? Dice, ma... papà, io voglio dire, vado con mio figlio, dice, scusa, papà, come mai quello annusa la sedia? Dico, no tesoro, non stanno usando la sedia, sta pippando. Ah, e come mai usa una banconota da 100, quelle verdi, belle, come mai usa quella? Papà ti deve spiegare perché. Comunque, ragazzi, la cosa di oggi clamorosa è la notizia su Reddito di Cittadinanza, che hanno preso pure quelli dell'omicidio di Willy, i bianchi, eccetera, accusati ovviamente, no? Quelli con le foto, con i vestiti firmati, lo champagne, gli yacht, gli abiti di lusso, eccetera, eccetera. Ora, questi grillini vanno mandati a pedate nel culo a casa, questo è il punto fondamentale. Beh, ma non c'è dei grillini qua. E quelli che hanno approvato il reddito di cittadinanza, Salvini compreso, grande, colpevole da questo punto di vista, colpevole da questo punto di vista, per una trattativa con i 5 Stelle, hanno approvato una legge, una porcheria incredibile, che dà il reddito di cittadinanza pure a gente che ha i soldi che gli escono dal buco del culo, almeno così mostra. Pare che abbiano incassato 33.000 euro in maniera illecita, non so, la Guardia di Finanza sta indagando. Una vergogna assoluta, una vergogna. E non lo dice Parenzo, non lo dice, perché certo, dovete sendere, ma non contesto di per sé il reddito, ma no PD, il principio del reddito di cittadinanza non è neanche sbagliato, è sbagliato, dai, come viene erogato, dai, però senza controlli, quello è sbagliato. Senti quest'altro, dobbiamo fare una grande allora, ragazzi, riforma. Voglio recuperare una intervista su una radio napoletana al pizzaiolo, quello che è stato massacrato di insulti, di minacce, per aver detto una cosa che è assolutamente vera: la differenza che c'è tra portare un Rolex a Milano o a Napoli. È vero che i reati a Milano sono superiori, che rubano più Rolex, non c'è dubbio, in proporzione. Sono, ma questo non c'entra nulla. Nessuno, tra l'altro, nessuno ha paura di girare a Milano con Rolex. Questa è la realtà dei fatti. Se vai a Napoli ci pensi. Come mai a Milano non ci pensi, a Napoli invece ci pensi? Ci sarà una differenza, no? Se ci pensi a Napoli e non ci pensi a Milano. Io non conosco una persona che ha paura di girare a Milano con Rolex. Non la conosco, ditemene una. Non la conosco, è meglio non girare. Io non ce l'ho e non me lo comprerò mai. Detto questo, a Napoli hai paura e gli alberghi te lo sconsigliano. A Milano non hai paura di girare con Rolex. Questa è la verità. Un signore, un pizzaiolo, ricordiamolo, ha pronunciato la seguente frase per poi cancellare il video. Amici, la differenza tra Napoli e Milano sapete qual è? Questo, vedete? Che puoi camminare con il braccio fuori, con un Rolex, e non ti tagliano il braccio per sopigliare. No, ma la cosa incredibile è che viene intervistato il giorno dopo da una, o lo stesso giorno, da una radio napoletana, non voglio manco dire il nome perché non mi interessa, da due signori, ai quali questo qua dice che viene minacciato, gli sputano sulla vetrina, come se niente fosse. No, ma senti questa cosa, ti giuro. Io ce l'ho sul lungomare Caracciolo e al Vomero. I miei fratelli invece stanno al centro storico e stanno subendo più attacchi di me, perché stando al centro storico passano persone, sputano dentro alla vetrina. Ti devi fare un appello a tutti quelli che ascoltano, veramente, io non ho parole e mi scuso con tutto il cuore, però vi dico, questo veramente si scusa, non ci attaccate violentemente come ci state attaccando, perché veramente io sto chiuso in casa e non esco da casa, perché ho paura di uscire da casa. Poi a un certo punto uno di quelli invitati lì in questa trasmissione: voi non dovete, voi cuochi, voi chef, voi pizzaioli, non dovete parlare di politica. Ma chi cazzo sei per decidere che questo non può parlare di politica? A parte che non ha detto niente che riguarda la politica, ha semplicemente detto una cosa che sentiva. Se pensi a Chef Rubio, ti viene voglia di dire una cosa del genere. Ma ho capito, ognuno può dire quello che vuole, no? Dai, su, ragazzi, però, ma che parliamo? Non è che uno chef, uno pizzaiolo. Ma ho capito, un pizzaiolo non può parlare dei Rolex, di come si portano i Rolex, non può parlare di politica. Chi cazzo lo decide? Una radio di Napoli? Insomma. Ma dai, su. Posso chiedere una cortesia? Sì. Di non parlare di politica. Tu sei un pizzaiolo. E allora tra l'altro so che fai la pizza come si faceva nel Settecento. Esatto. A comunicare come si fa la vera pizza. Ma lo dico a tutti i pizzaioli: comunicate cose belle che riguardano la pizza. Ma anche perché lo non siete tenuti a diventare opinionisti. Ma se qualcuno vi ha detto che potete farlo, vi ha detto una stronzata. Ragazzi, ma questi due signori che erano in questa radio non se la sono presa con le uniche persone con cui se la devono prendere, né con lui che ha detto quella frase là, né con il Nord, con quelli che sputano, con quelli che minacciano. Beh, questo non può uscire da casa, dice che lo minacciano. Ma è diventato normale. Non hanno detto una parola contro questi qua, contro la violenza che scatenano queste frasi. Perché se tu dici che Milano è un cesso, non è che i milanesi ti vengano a cercare sotto casa o ti sputano in faccia. A Napoli, se dici invece che ti tagliano un braccio se metti il braccio fuori dalla macchina con Rolex, ti vengono a minacciare in pizzeria. Questo è il punto. E questi qua zitti, muti. Vergognatevi. Chi è qua? Chi c'è? Sebastian da Vicenza, vai Sebastian, dimmi. Ciao Cucio. Dimmi. Comunque, con la teoria sulla donna, guarda che è la verità. Qual è la teoria? Quale teoria? La teoria è che quando la donna che fa più sport, anche che va in bici, qualunque che sia. Mamma mia. Tu saresti pure un medico, tu sei un medico, la teoria per cui la donna che va in bicicletta fa più sesso è vera. Ti spiego, perché c'è la vasodilatazione. Cioè, cosa vuol dire? Che la fluidità, il sangue si fluisce di più, c'è più energia, capito? Ma che dici? Ma non è vero, è una puttana. Tu saresti pure medico. Tu sei pure medico. Che medico sei? Che medico? Guarda che dico. Cioè, tu sei cardiologo. Sebastian è un Sebastian. Che vuol dire anche? Non ho capito. Che vuol dire anche? Che vuol dire anche? No, io sono cardiologo, no, scusami. Ma tu sei, se tu sei cardiologo, io sono Matusalemme, non sei cardiologo, non sei un cardiologo. Vabbè, ti do il mio nome e cognome, vai a vedere. Io sono venuto appena fuori l'unione di ordine di medici. Ti sto dicendo la verità, ero il mago. Cioè, le donne che fanno attività fisica scopano di più, hanno più, fanno più attività sessuale, perché Alexander, aspetta, fermi, fammi sentire un attimo. Certo. Ma scusa, ma non diciamo cazzate, dai. Ma è vero. Ma è vero, ma che origine ha quest'uomo? Ma che ne so, Sebastian. Guarda che siamo un paesano, un po' vicino a casa tua, dove sei tu ad Abano, come si chiama lui? Sì, ma lei è nigeriano di origine, signor Sebastian? Io sono nigeriano, parla più correttamente della Lores, ad esempio, parla l'italiano migliore della signora Lores. È la posta speciale con i nigeriani. No, ma non c'è nessuno contro i nigeriani. Sebastian, non ho capito una cosa. Questo qua che si proclama medico, questo Sebastian è cardiologo, e sostiene che le donne in bicicletta che fanno attività fisica fanno più sesso delle altre. È una puttanata. No, certo, un cazzo, stai ripetendo 140 minuti. Certo, che certo. Come ti chiami? Perché dal punto di vista. Come ti chiami di cognome? Come ti chiami di cognome? Milano Mbazo, non si capisce un cazzo. Come ti chiami di cognome? Cognome lungo. Allora, cognome Mbazo. Senta, signor Sebastian, fermo. La Zanzara. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. David, io sarò un coglione, un miserabile, come gli dici tu, però Abdallah Kebci non può essere italiano, è un cittadino italiano, ma non è italiano, eh? Capito? Ecco qual è la differenza. Se io vado in America e richiedo la cittadinanza, io divento cittadino americano, ma non sono americano, capito? Quindi qua in Italia ci possono stare tutti, cani e porci, a me non frega un cazzo, l'importante è che rispettino il paese e contribuiscono a renderlo migliore. Poi ci possono stare tutti, c'è sta Mauro da Mantova, perché non ci può stare pure lui? Tanto mo il problema per l'omicidio di Willy, so che i quattro percepivano il reddito di cittadinanza, capito? Come se fosse il reddito di cittadinanza il problema, capito? Salvi, io ti ho votato, ma l'hai approvato anche tu il reddito di cittadinanza, eri ministro dell'interno e vice premier di quel governo, non rompere i coglioni con il reddito di cittadinanza. Tanto mo è sicuro che Cruciani, Cottardo romperanno i coglioni con il reddito di cittadinanza. Roba che loro guadagnano in un giorno, quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza lo guadagnano in un anno, seppure. Però romperanno i coglioni. Perché Cottano, mi vieni a dire che tu lavori? Sono 10 giorni che stai alleprato a pelle delle onde sopra un albergo con una smandrappata vicino pagato con i soldi pubblici, sì. E quello tu lo chiami lavoro. Questo quello c'è. Lo chiami lavoro. Tu percepisci in un giorno quello che col reddito di cittadinanza, vabbè, tu lo percepisci in un anno. Sono d'accordo che la manovra non funziona perché dovrebbero trovare il lavoro, ma non venite a cagare cazzo, percepiscono 700 euro, capito? Voi 700 euro li alzate con 2 ore di trasmissione, allora? Non rompete i coglioni. Il problema è che quelli sono criminali e devono rimanere in galera, sì. Non che percepiscono un reddito di cittadinanza. Esatto, preciso, perfetto. Se vedo uno spacciatore che sta picchiando un anziano a terra, io a tiro terra. Dritto e mi faccio i cazzi miei. Mai intromettersi in una rissa o in un pestaggio. I cimiteri sono pieni di coglioni che volevano fare gli eroi. Però sai, il legionario siculo che ha appena mandato questo messaggio, forse non ha tutti i torti. Cioè, ecco. C'è un'eccessiva enfasi nei confronti dell'eroe. L'eroe, quel signore anziano pestato, per carità, questa è una disgrazia che sia stato pestato, che è andato in soccorso di una ragazza. A parte che la ragazza ha detto: no, il mio ragazzo non mi ha fatto niente, cioè il tossico sostanzialmente, non mi ha fatto niente, non era il caso di intervenire, che è un'altra storia. E forse bisognerebbe dare ragione alla Leosini quando ha detto che le ragazze, le donne che sono, no, che sono minacciate, che sono molestate, dovrebbero denunciare. Se non denunciano, poi è colpa loro. Forse ha ragione la signora Leosini quando parlava di stupro e altre cose. Insomma, forse ha ragione la Leosini, forse, dico. Forse, ma quel signore lì ha fatto benissimo a intervenire, certo, però non è che chi non interviene, non sapendo un cazzo del contesto, chi è l'aggressore, chi è la vittima, fa male. Ma se uno tira dritto con la macchina e si fa i cazzi suoi vedendo una rissa, chi tira dritto è un brutto, perché fa omissione di soccorso, insomma, potrebbe anche aver commesso alcuni il medico cardiologo esiste sul serio. Di origine nigeriana, nigeriano, si chiama Sebastian, non so come, dunque è di origine, è sicuramente nigeriano. Ma non me ne frega niente di abituarmi. Se sostiene veramente, come sostiene, di essere un cardiologo, pare che esista, l'abbiamo rintracciato, no, sugli elenchi. Perché non c'è la cardiologia in Nigeria, no, stai dicendo questo? No, per quello che dici. Finché i nigeriani che studiano qua dopo non tornano in Nigeria, non ci sarà la cardiologia in Nigeria. Perché dovrebbe tornare in Nigeria questo qua, secondo te? Perché io, se fossi un nigeriano e avessi studiato qui in Italia, mi sentirei in dovere di passare almeno una parte della mia carriera a restituire al mio paese la mia formazione. Ma restituire allora, finché gli africani che si laureano in medicina qua esercitano qua, in Africa ci saranno sempre pochi medici. È fattuale questa cosa oppure questo no? Qua, vuoi obbligare questo a tornare in Nigeria? Io non voglio obbligare nulla, e però allora volevo sottolineare questo fatto. Ma allora, questo qua si chiama diventato anche un analista della Nigeria, ma non ho capito. È in una stanza di albergo dove non paga, dove si fa massaggio e diventa anche un analista della situazione in Nigeria. Mi porteranno la prima cena della dieta stasera in camera. Allora fermi tutti. Ma quindi allora è un malato, sei un malato. Sì. Sono qua perché sono malato. Allora, state zitti voi due cornacchie. Allora, Sebastian da Vicenza, in realtà si chiama Mbaso Sebastian Chukwuka. Giusto, Chukwuka. Sebastian, giusto? Non sa cosa vuol dire Chukwuka, sì. Che vuol dire, scusa, Nerchia, che vuol dire? Chukwuka vuol dire che Dio è grande. Bellissimo, complimenti, grazie per essere in Italia. Se sostiene, questo signore cardiologo, se sostiene che una donna che fa attività fisica, attività sportiva, fa più attività sessuale ed è veramente un cardiologo, questo va cacciato dall'ordine dei medici, va preso a pedate nel culo. Cardiologi italiani, ribellatevi a questa follia. Perché? Ma scusa, noi abbiamo già uno spada di fuoco. Abbiamo già tra noi una spada di fuoco che è senegalese. È un operaio. Dove eserciti, caro dottore? Dove eserciti? Io ti seguo tutti i giorni. Questo qua è un cardiologo a Vicenza. Esercita. Dove eserciti tu? Io ti seguo tutti i giorni. Quando sì, vado vabbè, lavoro, ho capito, sempre, questo l'ho capito. Lavoro, sembri autistico, sempre. Scusa. Allora, sì. In quale, dove eserciti, dottore? Dove eserciti, a Vicenza, caro cardiologo? Che sia, a Vicenza. Non si capisce un cazzo. Allora? Cosa? Allora, questo vuol dire che io lavoro a Città, lavoro anche come libero professionista a Brescia, a Città di Brescia, sì, va bene? Vabbè. Boh, io, se lei vede, sì, io tu vai cacciato, tu vai cacciato allora, dall'ordine dei medici, perché, dei perché sostieni perché? Che questa puttanata che una donna che fa più sport scopa di più, è una puttanata. Ma perché ha più energia, anche le donne che non fa nulla, che è come uno, per esempio, faccio un esempio, una cosa banale, se tu... Per esempio, perché già vedi tu, Cucciano, se tu non fai nessuna attività sportiva, perché? Hai meno potenza, ma io conosco dei grassoni, che scopano come dannati, che ripeto, è pieno di gente. Non è vero, uno su dieci, dai. Scusami, Sebastian, come diavolo ti chiami, ma tu sei musulmano? No, sono cattolico, cattolico. Non sono musulmano. Tu sei a favore della, cioè tu preferisci avere una donna vergine, di incontrare una donna vergine oppure no? No, perché c'è un dibattito sulla vergine. No, la donna vergine, no, io non mi piace la donna vergine. Non ti vedi che ha ragione, non ti piace la donna vergine. Giustamente non ti piace la donna vergine. Ti piace la donna già ben aperta, diciamo, la donna vergine. Certo, la donna vergine non sa niente, non sa destra, non sa sinistra, Non ho capito, scusa. La donna vergine. Sì. E sono i musulmani che l'aspettano, quello là, che è una cagata per me, da voi punto di vista, una cagata, capito? Una donna deve essere? La donna deve essere libera, fa quello che vuole. Capito? No, ma questo non c'è dubbio. Brava, vedi. Guarda che io sono con te dal punto di vista sessuale, io con te, io ragiono come te. Sì, sei un po' libertino anche tu. Sei maiale, libertino praticamente. Sei libertino. Quanto ce l'hai il pisello lungo, Sebastian? Guarda, io ho la famiglia, ti prego. E vabbè, che ti frega, c'è la famiglia, c'hai figli. Si può chiedere a un ascoltatore quanto grosso ce l'hai? No, privatamente ti magari se vuoi, possiamo... Privatamente. Sapere, ma secondo lei che interesse può avere privatamente di sapere se Cruciani dovesse privatamente chiamarla alla fine della trasmissione per sapere le dimensioni del suo attrezzo, la ricovererei Cruciani. Capisco che possa avere un interesse radiofonico. Secondo te lo do. Ma lei è più matto ancora. Di quello che dice, se vuoi te lo dico privatamente, vuol dire che sei un coglione. Scusami, Sebastian, ma sei sposato con un italiano oppure no? Sì, con l'italiano, sì. Sei sposato con un'italiana, non con una del tuo paese. No, una napoletana. Una napoletana. Perché io so che tu sei contro i napoletani, tu. No, ma io non sono contro i napoletani, per niente, figuriamoci. Ma questa è una puttanata, voglio dire. Comunque, abbiamo qui un cardiologo, evidentemente ben dotato, dalla Nigeria, che si è sposato con un napoletano, il quale sostiene che facendo più attività fisica si scopa di più. Quello che dice l'Università della California. Una puttanata mai vista, andresti cacciato. Andresti preso a pedate nel culo, Sebastian. Ascoltami. Lo sai, uno ha detto che dice uno che tromba come un soldato, lo senti quella parola, lo sai quella parola? No, come un riccio si dice, no, come un soldato, come un riccio. Lo so come Naso Sebastin Ciucuca. Ciucuca. Vabbè, incredibile, ragazzi, incredibile. Gennaro da Caserta, avanti. Gennaro da Caserta. No, ti volevo dire una cosa, che delle fonti hanno detto che un'altra università, no? Un'università che non mi ricordo quella adesso, della strada, ma molto, sì, l'università no, della molto, strada. No, veramente molto famosa. Ha detto così, hanno fatto degli studi. Sì, che hanno Cruciani detto, la testa di cazzo, qual è? No. Che dice troppe stronzate al microfono, praticamente sì, lo piglia il culo. No, no, addirittura non fa tanto sesso, si può rischiare l'impotenza. Sì, ma infatti io sono un po' mi sto avviando all'impotenza, posso dirti? Mi sto avviando all'impotenza. No, ma io ti sto aggiornando, non è detto, che c'entra? Tu ti spacci per uno che fa tanto sesso. No, ma solo io così. Veramente non ho mai detto di fare tanto sesso, questo te lo stai inventando tu. Ti sto aggiornando. Vabbè, Gennaro, a parte queste stronzate che non fanno ridere, cosa vuoi dire? No, ma quella stronzata, ma fa una cosa di bene, scusa, ti sto aggiornando. Quella ma stronzata. Su che cosa, imbecille, su cosa? Sul fatto che si rischia all'impotenza. Ma sei semplicemente un cretino. Ma sei semplicemente un cretino patentato. Ma mi togli un cretino, Un'altra curiosità personale, te la posso fare una domanda personale? Sì. Sai qual è il mio motto di quest'anno? Dovrebbe essere Kiss my ass, baciami il culo. No, posso dirti sta cosa? Sì, dimmi. Allora, una sera stavo ascoltando la tua trasmissione, no? Tu hai dichiarato pubblicamente a radio che se avessi trovato la tua compagna con Vittorio Sgarbi, magari non gli avresti detto nulla e ti saresti aggregato. Cioè, guarda, sì, dico una cosa: possibile, sì, è possibile. Vergognoso. Tu sei un essere pessimo. O la tua compagna deve averti. E perché? No, ti deve amare troppo. Quindi è alla follia. Qual è il problema? Non ho capito. Ma qual è il problema? Quale è il problema? Ma qual è il problema? Che fai? Bigotto? Non ho capito. Sono cazzi miei. Se a me piace che la mia donna sia scopata da un altro, saranno cazzi miei? Non ho capito. Perché no, ma in particolare da Vittorio Sgarbi. Ma che mi interessa? Che ti interessa? Ma cosa ti interessa? Se tu non lo vuoi fare, se tu non lo vuoi stare sempre con una tutta la vita, che è la perversione più grande, stare con una tutta la vita. Parenzo, per esempio, che è un monogamo, è un perverso, secondo me. No, è un perverso. È da 10 anni che scopa la stessa persona, è una perversione. Il fatto che tu ce l'hai con i napoletani, semplicemente perché una sera hai smontato dalla radio e avevi il rubinetto rotto a casa e praticamente hai trovato lì cavoli che invece di tappare il rubinetto ha tappato qualche altro buco e hanno detto. Magari, non mi interessa. E da quel momento hai incominciato ad avercela con i napoletani. Ma mica siamo tutti idraulici a Napoli. Ma tu sei semplicemente un cretino, posso dirti. Ma tu sei un fest proprio. Sei proprio una testa. Non solo, sei anche una testa di cazzo, posso dire. Tu sei fest proprio, fest nato, cresciuto e pasciuto. Fermo e là, sarai fermo a vita. Fermo là, eri incoglionito. Sì. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Cane rognoso. Lucia, stamattina ho fatto una scoperta non di poco conto. Che è successo? Va condivisa subito perché potrebbe tornare utile a tanta altra gente. Mi stavo lavando i denti e mi scappa da pisciare. Sì. Ok, sto già davanti al lavandino. Beh, io piscio sempre nel lavandino. Piscio. Io no. Beh, però. Lavo i denti, piscio. E dico, così risparmio pure tempo. Quando mi accorgo che non era solo una questione di risparmio di tempo, quanto che il getto di piscio toglie bene tutte le sgocciolature di dentifricio che fai quando ti lavi i denti. Beh, e sta cosa, cioè, può tornare utile a molta gente. Comunque, saluti da Adriano, da Roma. Sì, Adriano? Adriano Roma, come l'imperatore, no? Solo che a me piace la fregna, se no pisciavo seduto. Perfetto. Ciao. Perfetto. Brooks, non lo so se è ripartito il Merda Advisor, ma volevo segnalarti che a Villa Crespi, il ristorante di Cannavacciuolo, si caga, che è una meraviglia. E un Merda pranzo qui costa più di un pompino di Simona, però cagare ne vale davvero la pena. Siamo veramente al top. Pronto, Crocianona? Altro che Simona 1 e Simona 2, sono io l'unica vera bocca di rosa zanzarosa. Questo è buono, eh? Sappilo. Io sarei in grado anche di far riscattare i sensi alla Donata di Varese. Guarda, faccio i miracoli. E tra l'altro volevo dirti che secondo me Barisoni ha un mega trapano a percussione della Machita, proprio il top. Barisoni deve essere il top, mentre invece Parenzo mi sa. Ma io querelo per molto molto molto meno. Ma come si prende? Ma chi è questo? Perché mandare, io avviso la regia, mandare i messaggi, cioè uno che chiama in diretta va bene, lo si può mettere a tacere. Ma voi che in modo scientifico mandate messaggi preregistrati, commettete un duplice reato. Io vi avviso, io ve lo dico, io vi denuncio tutti. In precedenza tutto, quello che viene mandato in onda, esatto, è come se io mandassi in onda una registrazione diffamatoria. Un conto è che avviene in, il fatto avviene in diretta. No, consigli agli avvocati, certo, ai miei, io vi denuncio adesso, sono così da denunciare. L'avvocato poi dirà: lei scusi, dov'era? Non fa parte del programma. Il mio avvocato, io dirò: sì, purtroppo, ma poi, mi trovo però, nella condizione David, di dover autodenunciarmi. È pericoloso, devi andare in tribunale a dimostrare che non ce l'hai piccolo. Effettivamente in questo caso non conviene. Se ti chiedono l'incidente probatorio, ma che cosa sei adesso oggi? Dal letto dell'albergo pagato di Avalo Terme ci sta spiegando l'incidente probatorio. Guido da Napoli. Incidente probatorio, sei Taormina, sei. Che roba è? Guido da Napoli. Mi senti, Cruciani? Ciao. Purtroppo sì. Allora, il discorso è questo, secondo me, che tu alla fine con Napoli hai ragione. Io sono il primo a dire che hai ragione. No, ma ragazzi, non voglio avere ragione, ma è abbastanza paradossale che questo signore qui dica una cosa, giusta o sbagliata che sia, non lo so, per me è giusta, per altri sbagliata, viene aggredito, minacciato, sputato di fronte al locale, la gente passa e sputa e non può uscire da casa, e se la pigliano con me perché parlo di questa cosa, in generale con lui, e non se la pigliano con quelli che lo minacciano. È una cosa pazzesca questa roba qua. Ma tu non ti puoi lamentare, perché lo sai anche tu che siamo un popolo vittimista, che appena ci tocchi qualcosa noi scappiamo subito, un po' come specchi. Potete, ma chi cos'è come questo? Volete. Cos'è? Le scuole, David, sono state chiuse a fine febbraio. Capezzone. Sono passati sei mesi e mezzo. Ha ragione, Capezzone. Sì. In sei mesi e mezzo, vergogna. Che avete fatto? Uno. Oggi la notizia è che, mancano tra 10 e 20 mila aule. Due. Mancano decine Mamma di migliaia mia. Di bidet. Tre. Mancano tra... Allora Guido, io non ho capito che cazzo vuoi, sinceramente, cioè non ho capito cosa vuoi. Cioè, allora io ti volevo dire semplicemente questo, che quando hai parlato della ragazza che è morta, che aveva il compagno così, lo so che è una notizia vecchia, però io volevo aggiungere una cosa, perché io abito là vicino e ti volevo dire questa cosa, che non c'entra che mo, per esempio, non lo so chi è il coglione che ha detto no, quello poteva succedere solo a Napoli, è una cazzata, perché sono zone. Lo Zen di Palermo, come la Baruna. Ho capito, intanto è successo là che quello è stato inseguito col motorino, no, tamponata ed è morta, cioè questa al fratello. Ho capito, ma per carità, merda, può succedere ovunque. Assolutamente. Davide da Roma, vai Davide, dimmi. Intanto grazie per il tuo quotidiano contributo alla cultura democratica italiana. Sì, benissimo Davide, dopo aver detto questa minchiata vai avanti. Dopo questo volevo dire una cosa, sempre a David. Sento delle sirene intorno. Sì, perché sai, la gente vive. Sì. Allora, ti volevo chiedere, David, ma hai notato che quando c'è una persona, magari che esterna i propri pensieri radicali di destra, Cruciani è subito pronto ad essere liberale, quando invece c'è una persona d'altro canto ad essere magari di sinistra, un po' più radicale, lui subito urla. Io urlo, ma che cazzo dici? Ma me lo domando, ma che dici? Ma sei semplicemente un cretino, è una riflessione, non è vero. Ma non è vero, è una riflessione che condivido, e grazie per averla portata alla nostra attenzione. Ma non è David, vero, ma cosa si prova, David, a condurre la Zanzara da solo quest'anno? Flavio da Roma, vai a cagare. Flavio da Roma. Uè ragazzi, ciao a tutti. Dimmi. Allora io ho una domanda per tutti e tre e una cosa solo per Gottardo. Ma non c'è nessuna domanda qui non si fanno domande, si interviene e si dice una cosa. Dimmi come allora la pensi su qualcosa. Allora intervengo, io non capisco perché, se due bianchi uccidono un ragazzo di colore, italiano, cittadino italiano, come ti pare a te, è frutto del clima d'odio fascista che si vive nel paese. Sì, giusto. Invece? Se una persona di colore uccide un bianco, prete, ma quello è accidentale che sia prete, è frutto del clima d'odio fascista che si vive nel paese? Sì, altra cazzata, del clima di odio. Questo qua è semplicemente un signore clandestino tunisino che era qui. È un criminale, perché ha dato una controllata. Perché la Caritas di Como ha detto che è colpa del clima fascista? Che cazzo c'entra in questo caso? Perché, posso capire a Colleferro? Perché non capiscono una sega, questo è il punto. Perché punto i signori della Caritas di Como non capiscono una sega. Una sega. Sì, una bella Alberto. Analisi questa. Non capisci, vabbè, quindi capisci tu il telefono? Capisci Alberto, tu il telefono? Devo dire una cosa, Alberto, devo dire una cosa. Dimmi. Senti, ma Alberto, io a California non so manco dove sta, figura dell'università. Quello che te posso dire io è che sono stato 3 anni e mezzo con una che andava a cavallo. Sì. Una troia scatenata. Eccolo. Sì, ma i due indizi iniziano a fare una prova. Fermo là, Flavio, il punto... Due indizi iniziano a fare una prova. Gran porche, quelle dei maneggi, gran porche. Ma non c'entra nemmeno a Roma. Dal vivo? No. No, ma ragazzi, non stai zitto un attimo, Flavio. Però capita molto spesso. Allora, fermi un attimo. Allora, questa è una stronzata pazzesca. Sono generalizzazioni ridicole. È quello studio dell'Università della California. È una puttanata. Non è che quelle che fanno attività fisiche scopano di più, nonostante il cardiologo. Questo non lo sappiamo. Questo. Stefano, Sandro da Cremona, vai, Sandro. Forse sono più predisposte appunto all'attività fisica. Ciao. Volevo dirti che io ho letto quell'articolo lì. Penso fosse un altro, perché l'ho letto circa 1 mese e mezzo fa. Vabbè, è uguale. No? E in quell'articolo, oltre al fatto della, diciamo, della prestazione fisica che viene con l'allenamento, parlava che il sellino e lo sfregamento che uno fa durante quello sport lì porta a, diciamo, alla ricerca del sesso. Ma non è vero, è una stronzata, è una, stronzata. Ma certo che è una stronzata, è inventata da questa università fantasma, da questa università no, fantasma. Volevo integrare questa cosa qua, perché magari ho letto un altro articolo, è lo stesso. Sì. Ma non lo so, può darsi, perché, ma il sellino della bicicletta. Perché non si parlava solo del fatto dello sport, capito? Sì, ho capito. Si parlava che quel tipo di sport che c'hai in mezzo alle gambe, un bel sellotto, e poi c'è lo sfregamento. Ma d'accordo, ma lo sfregamento in quel momento può portare a una stimolazione sessuale, non c'è dubbio. Ma cosa c'entra col fatto che quelle che fanno attività fisica, e in particolare la bicicletta, sono predisposte a fare più sesso rispetto alle altre? Sul fatto dell'attività fisica, quello è un altro discorso. Io ti dicevo, siccome l'ho letto perché ero curioso anch'io. Ciao. Michele da Bari, il grande dibattito sull'attività fisica e il sesso. Dimmi. Come siamo finiti? Okay, ragazzi, mi fa incazzare. Per esempio, uno come Tiziano Ferro, adesso pensando ancora a questa cosa del razzismo, ogni tanto mi viene in mente, no? Tiziano Ferro, che io stimo tantissimo, cantante, mi piace moltissimo, che dice che fa delle cose contro il razzismo, benissimo. Ma che male c'è, anzi, dovresti dire meno male. Qui va bene, contro il razzismo, dei proclami, delle cose. Anche tu, aspetta. Anche tu. Pronto a sostenere in tutto la famiglia di Willy. Ma scusa, ma che c'entra, scusa, tra le due? Qual è il collegamento tra le due gesto. Cose? Non ho capito. Qual è il collegamento tra la battaglia contro il razzismo, che va bene, scontata, va benissimo, per carità, è un cantante mainstream, giustamente fa una battaglia contro il razzismo e va benissimo. E poi il sostegno alla famiglia di Willy. Ma cosa cazzo c'entra? Qual è il legame tra le due cose? Amico Tiziano Ferro, quale cazzo è il legame tra le due? Come ma sai, non c'entra Willy, niente! No? Siete voi razzisti! Sei tu il razzista! Siete razzisti! Volete catalogare quel ragazzino come un ragazzo di colore? Per me si chiama Willy, è italiano, ha 21 anni, era tifoso della Roma e non era nero! Voi invece che volete fare le campagne antirazziste basandovi sulla storia di Willy, siete veri razzisti, chiaro? Non è stato ammazzato perché è nero. Non era una rissa, poteva essere questo bianco. Non lo sai tanto. Ma non questo lo sai, non lo sai. Allora se non lo sai, che chi cazzo dici? Questi bulli, abbiamo il profilo di chi erano questi criminali. Chi sono questi criminali bulli? E Gottardo sta zitto perché ho ragione io, naturalmente. Sta zitto perché ho ragione io. Perché? Allora io non riesco a capire sono ancora perplesso dalla generalizzazione che tu dici non funziona. Mi manda un messaggio un noto dirigente di Radio 24, del gruppo Sole 24 Ore, che mi dice: avevo una cavallara per le mani che montava vicino a Milano, una porca inaudita. Ma no, adesso tutte quelle che fanno equitazione sono delle porche. Ci sono. Vabbè, sì, perché arrivati alla conclusione che tutte quelle che fanno, che montano i cavalli, semplicemente per una trasposizione. In questa tua ricostruzione sono delle cose che non tornano. Uno, che un dirigente del Sole 24 Ore mandi un messaggio a Gottardo, già questo è un non torna. Due, che un dirigente del Sole 24 Ore parli di questi argomenti. Sono grande due cose di gnocca. Grande appassionato di gnocca, peraltro. Michele da Bari. E dice dai, la cavallara, c'è? La cavallara di Milano era una gran porca. Michele da Bari, vai. Sì, pronto. Giuseppe, buonasera. Innanzitutto vorrei ricollegarmi al pronostico che hai fatto a inizio puntata e condividerlo, perché io so che cos'è il carcere, ci sono stato per reati legati alla droga. Ti sottoscrivo che il nero che ha ucciso il parroco. Scusa, quanto ti sei fatto in carcere per la droga? Io quasi 3 anni. Per che cosa? Spaccio, per che cosa? Giuseppe, sì, reati legati alla droga, dai, non mi fa scendere. Non mi fa scendere, detenzioni. Ma qui è un posto dove chiamano moltissimi spacciatori, sì, moltissimi detenuti o ex detenuti. Okay, fascisti, neofascisti. Ma che c'entra adesso? Tu sei per il recupero dal carcere, sì, e poi, certo, stai attaccando Michele, no, perché è stato in carcere da anni? Grazie per aver chiamato, dico grazie. No, ma scusami Giuseppe, per favore puoi far tacere quel barboncino? Volevo dirti un concetto. Sì, come dice, scusi signor ex detenuto? Io ho sottoscrivo le tue parole di inizio puntata, ovvero che quel negro, lo chiamo negro, non si farà neanche 3-4 giorni di carcere. Scusi, però lei non ha mi perdoni, sono felice che lei sia uscito dalla casa circondariale, felicissimo. Sono felice che tu non ci entri. Felice che lei sia ritornato a inserirsi nella società. Dopodiché, se lei usa la parola negro e spera che il negro vada in carcere, lei è un cretino. Questo no, le voglio dire. Io spero che il negro vada in carcere. Io lo spero che il negro abbia l'ergastolo, non vada in carcere. Lo vedi? Lo vedi? Beh, scusi. Lo vedi? Giustamente ha ammazzato uno a coltellate. Uno deve sperare che prenda l'ergastolo. Non ma mi pare che Michele dubbio. Stia dicendo una cosa strana. Ma perché devi dire spero che il negro vada in carcere? Lui è ex detenuto. Lui è ex carcerato. Lui è ex detenuto. Lui. Lei che cos'è? È bianco? No, è un cretino. Sono bianco, non dico come te che sei grigio, ma io sono bianco. Ma è bianco, è bianco. Per ricevere lezioni di stato di diritto dall'ex detenuto, è incredibile. Ma il nostro ex detenuto, Giuseppe, guarda ogni tanto il programma di Del Debbio, per esempio. Solo Giordano e Del Debbio. Non ho altre domande. Non ho altro da aggiungere. Non ho altro da aggiungere. Ma qual è il problema? Non ho altro da aggiungere. Giuseppe, scusa, posso parlare con te, non con quei due decerebrati, per favore? Sono molto felice che vada così. Guardi, mi rende orgoglioso a me. Due decerebrati incensurati. Aspetta. Aspettami là, Michele, fermo là, non te ne andare, fermo. Ragazzi, un grande ritorno adesso, Michele, fermo là, che è molto interessante quello che stavi dicendo, ma ti devi fermare un attimo, perché qui abbiamo un grande ritorno, ragazzi, Alberico Lemme. Buonasera, genio. Buonasera. Dopo il detenuto. Ciao a tutti, buonasera. La dovete smettere di difendere gli ex della comunità, sono degli invasori, vanno fermati in mezzo al mare, gli si spara alla barca, avete capito? No, ci stanno invadendo. E un'altra cosa, questo povero prete, che caritatevole, aiutava gli extracomunitari, tanto di piacere, sono dispiaciuto per lui che è stato ammazzato. Ma vi rendete conto che hanno ammazzato un prete e il Papa non dice nulla? Ma cosa c'è? Ha ammazzato un prete cristiano e il Papa non dice nulla. Ma chi ti ha detto che il Papa non dice nulla? Beh, questo è sotto l'organizzazione mondiale, ci stanno schiavizzando, stanno musulmanizzando. Ma tu perché non parli l'Italia? Di diete? Parla basta, di basta. Non parlare di cose più grandi di te, parla tu di diete. Parla di diete, scemo che non sei altro. Ti fai finta di fare il dietologo, sei un farmacista con quelle giacche ridicole che porti, pagliaccio del circo. Lemme. Cornuto di Lemme, fammi sentire sulla Zolina, fatelo finire di parlare. Ha detto una puttanata sul Papa. No, ha detto una cosa giustissima. Certo, esatto. Il Papa ha detto non dice nulla. Sei un cretino. Il pontefice ha voluto esprimere il suo dolore. Ma che cazzo? Porca puttana! E state zitti, no? Il Papa ha detto un martire della carità per i poveri. Esatto, esatto. Dichiarazione di ieri. Non dici puttanate, Lemme, dai. Esatto. Sì, ma non ha fatto. Lemme ha ragione. È una dichiarazione del Papa. È una dichiarazione cosa del Papa, te l'ho appena letta. Cosa vi dite che dico puttana? Non dite sciocchezze. Ma parla di zucchine e piselli. È quello che il tuo campo. Non parlare del Papa. Questa donna che non sei altro. Allora, ha detto giustamente Lemme, che anche lui non ha notato questa cosa, perché il Papa l'avrà detto, ma non l'ha detto con la forza che meriterebbe la cosa. Ma no, era su tutte le agenzie, era su tutti i giornali. Con la stessa forza che difende i gay. Basta! Era su tutti i giornali. Cosa ne pensa Alessandro Pasi del matrimonio dei gay? Chi sono io per giudicare? Ma non te ne sei accorto, perché tu sei un cretino. Sei il Papa. Fornicare, ricordiamo al Papa che fornicare è peccato mortale. L'omosessualità è peccato mortale. Il Vangelo secondo Lemme, va bene. Per i musulmani no, ma per la Chiesa cristiana sì. Come cosa dice il Papa? Chi sono io per giudicare? Devi giudicare perché tu rappresenti Dio in terra. Allora, giustamente, il Papa ha detto un martire della carità verso i più poveri. Certo. D'accordo, però non si è scambiato. Ma passare una cosa del genere, dai. Da quel di, da quel diversamente colorato, è stato assassinato. Doveva dire qualcosa, voleva dire qualcosa, voleva dire qualcosa sulla cosa, doveva dire qualcosa sugli immigrati, sull'immigrazione. Ma cosa c'è dall'immigrazione con questo episodio? Non c'entra niente. Sono tutti immigrati. È un criminale, sarebbe come dire che tutti i dietologi sono dei coglioni come te. È un criminale diversamente colorato, è un criminale invasore e noi non ci difendiamo. Ma che dieta si deve fare per diventare così cretini? Cioè, lei non mangia potassio? È povera di fosforo la sua dieta? Deve prendere le banane, carissimo. Cioè, dai, tu cretino. Sta dicendo delle cretinate. Né di religione e di nulla. Allora, la prima verifica che uno fa, vede che lei mi dice puttanate. Però posso dire una cosa? Lei, quando ha detto che il Papa non ha detto una parola, voleva dire altro. Non l'ha sentita lui, non l'ha letta lui. Ma nessuno se lo ricorda quello che ha detto. Ha detto una frase così. L'ha detto ieri. È una dichiarazione ufficiale. Non l'hanno dato nessuno. Non l'hanno dato nessuno. Ha fatto una preghiera per quel proprio prete? Ha detto certamente, il prete di pregare. Guarda il TG Show di Mediaset. Guarda Mediaset. Svegliatevi. Lo ha detto Mediaset. Guarda pure Mediaset. Il TG Com. Somaro. Guarda, vai a vederlo. Vogliamo parlare della testa di donna della settimana? Lazzolina, la ministra? Cambia argomento che ti conviene. Lei. Che ti abbiamo beccato con le dita nella mano. La comunicazione. Idiota. Sono il numero uno della comunicazione. Io devo dire Se dice da solo. Sonso, come ti permetti? Testa di cazzo, stracitto, che ci sei fatto due schiaffi. Giustamente, sei incazzato. Perché... Ti ho beccato sulla stupidaggine. E adesso vai in corner insultando mia madre perché non hai argomenti. Sei un farmacista. Parla di piselli, parla di zucchine. Gottardo. Sei un vero coglione. Tra l'altro, quanto pesi? Gottardo? Ero 108 kg, ho già perso 4 kg. 108 kg, sei grasso come un vitello, sei un grande ciccione. Il mio cervello, a differenza del tuo, funziona. Tu sai cosa serve su questa terra? Tu fai, mangi e fai la cacchina, non serve a nient'altro. Altri insulti invece di ammettere che sei un male informato? Spargi falsità? Male informato, certo. Sì, ma voleva dire che il Papa non ha donato, ha detto un'altra cosa. Vuoi parlare della Zolina? Che ha fatto la Zolina? È un'altra gaga, io sono stato insegnato, ascoltate 10 secondi. Dimmi. La distanza tra un banco e l'altro è di un metro. Cosa fa la testa di donna intelligente? Metti il banco a rotelle, tu finisci uno con l'altro. Ma è una cosa intelligente. Ma vi rendete conto che ci stanno prendendo per il culo? Sapete perché? Perché vogliono applicare la didattica 2.0 nelle scuole italiane, dove ci sarà l'educazione del gender, dove sarà eliminato il concetto di famiglia, sarà ammesso il matrimonio, oppure il matrimonio gay, da lesbica, l'assunzione. Ma che c'entra la... con la scuola? Scusa, adesso, che cosa c'entra con i banchi? Caro Cruciani, dimmi. Io 4 mesi fa ho parlato dell'ordine mondiale. L'ordine mondiale. E dicete messa a ridere, tu apparenti. E ti credo. Oggi è una realtà. Cioè tu stai dicendo la realtà di oggi è che c'è un nuovo ordine mondiale che ci vuole imporre le distanze, la mascherina e tutto. Stanno schiavizzando a tutti, mi hanno messo la museruola. Togliete sta cazzo di maschera. Ma tu hai preso il Covid pure, lui amico ha preso mio. Pure il Covid, salvato da una donna peraltro, salvato da un medico da donna. Da quattro donne. Ma perché tu che hai preso il Covid stai dicendo che ci stanno schiavizzando? Spiegami. Perché colpisce anche il cervello, il Covid colpisce anche il cervello. C'era uno studio l'altro giorno, l'ho letto sul Corriere. Non si sente da niente e da nessuno, presa per il culo. I ragazzi a scuola seduti senza mascherina, in piedi con la mascherina. Ma vi rendete conto che ci prende per i fondelli? Questa è una presa per il culo. Su 60 metri quadrati è sempre la stessa aria che gira. Che senso ha? Al ristorante ti siedi senza mascherina, in piedi con la mascherina. Ma tutti lo fanno sti coglioni italiani. Ma il vaccino, scusami Lemme, ma il vaccino è un prodotto, è una trovata del nuovo ordine mondiale, delle grandi famiglie? No, è un a trovarlo, ci sono milioni e milioni di euro che stanno mettendo lì e non serve assolutamente, ve lo dico da farmacista, non il vaccino sul Covid non serve assolutamente niente. Tutto il mondo lo sta cercando, tutto il mondo sta cercando il vaccino, arriva lo stronzo che dice no, quello che si chiama di piselli, come dice giustamente Gottardo, e dice che uno lo chiama al telefono e dice sì, 2 chili di piselli, poi ti mangi una bella pasta asciutta, questa dieta non vaccinate, sei un cretino. Quando ti chiamano al telefono tu dici sempre la solita stronzata, mangi fritte, mangi fritte, pasta asciutta la mattina, pasta asciutta, fritte. Oggi a scuola è sostenuto per la mascherina, lo sapete queste cose o no? Perché va in acidosi il cervello, respira proprio, ma tu ce l'hai già in acidosi il cervello, è già, è già, è già così, è già così, è già così, è già così, è già così. Ma tu sei un povero coglione, stai dicendo, stai dicendo un delirio, stai facendo un povero delirio, l'ordine mondiale, sei pazzo, pazzo. Sì, sì, sì, ve lo stanno mettendo il punto. E tutti i politici sono tutti d'accordo. E stanno tutti a soldi. Ma scusami, chi c'è a questo nuovo ordine mondiale? Chi sono le grandi famiglie, i Rothschild, Soros, eccetera? Le grandi, a me ne sentirete parlare, sto facendo un articolo su. Ma sentirete, ne parliamo in continuazione, veramente. Martedì, sentirete. Ho scritto un articolo su Pop, il giornale popolare. Dove vi spiego tutte queste cose. Pop.it. No, il giornale popolare. Dunque, Meluzzi ha ragione. Meluzzi ha ragione quando parla di Meluzzi ha sacrosanta ragione, mi fa piacere che è veramente coraggio. E infatti, i coglioni vanno sempre in coppia, ovviamente, è così. I coglioni vanno sempre in coppia. Scusami, Alberico, ma chi ha? Hanno solo paura, perché quello che io dico lo pensano tutti, la maggior parte di quelli che capiscono così, cioè, che cosa hanno dici? Paura a parlare, non abbiate paura, ma la se paura queste stronzate le dicono tutti i giorni qua, chi ha paura a parlare? Tu non parli mai, tu sei un lecchino del sistema. Ma glielo vuoi spiegare, Cruciani, che ogni giorno qui c'è qualcuno che parla del nuovo ordine mondiale? Chi è che ha paura a parlarne di sta stronzata? Che infatti tu non hai paura perché lo difendi e non ti rendi conto. Difendi il nuovo ordine mondiale. Posso dire, posso dirvi la verità? Sì. Sì, io difendo il nuovo ordine mondiale. Lo difendo tutto, tutto. Tutti i Rothschild, Rockefeller, chi sono gli altri? Tutto, tutto il nuovo Gates, ordine Bill Gates. Bill Gates, tutti i giorni lo difendo. Difendo tutto. Tutti. Mi hanno messo il chip. Mi hanno messo il chip sotto pelle. Ma è vero messo che vogliono mettere questo chip sotto pelle, secondo te, per controllarci, Alberi? No, non solo per controllare, ma per cambiare il vostro modo di pensare. Certo, perché quel chip riesce a influenzare il pensiero dell'uomo. Se riuscisse a influenzare il fatto che nessuno deve andare più da Lemme, già sarebbe un buon contributo. Scusami, chi hai in cura in questo momento, dopo Albano? Chi stai mettendo sotto torchio? La Serena Grandi. Devo fare anche i nomi, è giusto, professionale, bravo. Ma posso fare i nomi? È giusto, sei un professionista, fai i nomi delle persone che hai in cura, bravo. Bravo, scemo, bravo. Quanti chili deve perdere Serena Grandi? Ho fatto diventare famoso tutti quanti, Serena Grandi era già famosa prima di te. Sto facendo far diventare anche famosa anche la Serena Grandi. L'unica che non farò mai diventare famoso è Parenzo, perché c'è una panza che non ha bisogno della dieta. Scusami, quanti chili deve perdere Serena Grandi? Ne ha persi 10, anche perché sto facendo un film molto interessante, sta sul set, e quindi ha perso ancora 5 kg. Poi non può dimagrire più, perché altrimenti diventa troppo magro, non può fare il film, non è una battuta, è vero. Dunque, non può essere troppo magro. Sempre riservato con i suoi clienti. Al massimo 15 kg, ne ha già persi 10. Cazzo, ma 10 è tanto. Io l'ho incontrata recentemente, prima del lockdown, era abbastanza in carne, sì. Senti, Mussolini ha fatto delle cose buone, secondo te? Mussolini è un grande. Pure fascista, tutto cioè. Quello che noi ci troviamo, grazie. Non sono fascista, ho studiato la storia. Sì, quelle che ci ritroviamo sulle patatine, come le diete. Ha fatto in 20 anni, è stata l'evoluzione dall'Italia agricola all'Italia industriale. Cioè, sono cose che ha se fatto c'era lui, come agirebbe, con gli extracomunitari, se ci fosse lui, diciamo. Se ci fosse lui, Mussolini difenderebbe i confini, metterebbe le navi da guerra ai confini, e chi si azzarda, se non a bandiera italiana, se non ha permesso, gli spara. Si vede che ho intuito già. Alla barca. Però ci sono le persone sopra. È un'invasione. È un'invasione. Che fa il cazzo comodo di loro e nessuno gli dice niente. Posso dirti che su quei barconi, non dice nessuno, su 100 migranti su un barcone, su 100 migranti, è difficile trovare un coglione come Lemme. Su 100 che arrivano, secondo me è difficilissimo. Figurati se basso i barconi. Ciao Alberi, abbraccio, ciao, alla grande. È già un successo. È già un successo. Scusate per le parolacce, ma vai a quel paese, cornuto. La Zanzara. E comunque il prete ucciso a Como è identico a, a Cruciani, identico. Grazie Giuseppe. Dopo la puntata del 9 di settembre io ho un nuovo idolo, Rolando Poeta. Ah, dimenticavo, io ho sempre lavorato. Siamo al top. Io sto dalla parte dell'anziano, io sto dalla parte dell'anziano per terra. In Italia abbiamo 18 milioni di pensionati, dovrebbero dare un premio a chi ne ha coppa uno. Ma adesso questo. Noi andremo a Roma, vi prego di una cortesia. In questo momento ho aperto una email. Oh, è tornata. Per cortesia prendete carta e penna. Sì, prendiamo. E vi prego di scrivere. Scriviamo. Io urlo la verità. Come? Attenzione, senza l'accento sulla A. Perché? Io urlo la verità, senza accento sulla A, @gmail.com. Ah. Ripeto. Ah. Io urlo la verità, @gmail.com. Ripeto ancora una volta. Ma non c'è bisogno. L'abbiamo capito, io dai. Urlo la verità, @gmail.com. Perché ha a che fare con i coglioni, si vede. Quindi deve... Io urlo la verità, @gmail.com. È tornato Pappalardo! Però dovrebbe farti pensare, caro David, il fatto che Pappalardo va a votare no al referendum con il gilet arancione. Questo, tu che voterai no al referendum, e non ce ne frega un cazzo del referendum. No, a noi. No, ma infatti non ne volevo parleremo parlarne la settimana prossima, eventualmente. Eventualmente. Sì, sì. Però tu voterai no, me lo confermi che voterai no? Sì, no, sì, assolutamente. Però dopo aver sentito questo. Senti sta cosa. Tu voterai come Pappalardo. Voterai come Pappalardo. Questo mi crea un problema. È una vergogna! Che cosa? Andate a votare no! E io dico ai gilet arancioni, andate con il gilet a votare. Beh, adesso. Mettetevi il gilet addosso, il gilet arancione. Andate lì, andate a votare no con il gilet arancione per far vedere che noi siamo contro il PD e contro il Movimento 5 Stelle. Li dobbiamo annientare. Cari amici, li dobbiamo annientare con un no totale. E poi scrivete alla mia email. Ancora. Vedete là. Io urlo la verità, @gmail.com. E dite al generale, saremo a Roma con lei. Ancora. Saremo in 10, in 20, in 30. Scrivetemi e faremo di modo che entro la fine di settembre possiamo dire a tutti quanti i gilet arancioni saranno nel mese di ottobre in 50.000. In 10.000, in 100.000, lo dobbiamo dire a tutti quanti, a quelli che volevano ammazzare il nostro movimento. Ma nessuno vuole ammazzare perché non ti si incura nessuno, questo è il punto. Però, io urlo la verità. Scusami, però possiamo dire a qualcuno di scrivere semplicemente alla mail esatta che ha detto Pappalardo, io urlo la verità senza accento sulla @gmail.com, siete dei coglioni. Sì, io urlo la verità, @gmail.com. Sei un pirla, sei. Però se avessero tagliato il numero di parlamentari, costui non sarebbe mai diventato sottosegretario e quindi neanche generale il giorno prima di andare in pensione. Andava tagliato prima. Stiamo preparando una grande manifestazione. Ancora, sempre queste manifestazioni. Saremo in tanti, perché ci stiamo accordando. Tutti quanti. Grazie ragazzi. Mi state commuovendo. Io voto no, io voto no, io voto no. Ditelo a tutti, io voto no, io voto no, io voto no. Un abbraccio affettuoso, cari amici. Non è un spot, eh? Viva l'Italia! E che Dio vi benedica! Però il fatto che questo qua voti come te ti dovrebbe far riflettere, caro David. Ti dovrebbe riflettere. Mi stai aprendo effettivamente un dubbio, una breccia dentro la mia mente. Sì, devo ragionarci effettivamente. Devo ragionarci. Io urlo la verità, @gmail.com. Siete dei coglioni. Roberto dalla provincia di Milano. Vai. Sì, buonasera, salve, posso parlare con Parenzo? Sì, Parenzo è qua, sì. È qua. Sì, però puoi parlare con Parenzo, puoi dire tutto quello che vuoi. L'unica questione fondamentale, ma l'unica questione è che non si sente una fava. Cioè, la vera differenza è che non si sente un beneamato cazzo. Dunque, senza auricolare, senza niente. E non lo so, ora si sente bene. Va bene. Proviamo. No, okay. No, volevo dire, ma quello che ha detto l'ascoltatore di prima, cosa c'è di sbagliato? Dov'è il Papa quando succedono queste cose? Dov'è il Papa? Giustamente, dov'è? Non è l'ascoltatore. Detto, l'abbiamo detto prima, dov'è l'abbiamo spiegato. Ha detto l'ha una detto. Frase il Papa, ma dov'è il Papa? Quale frase? Che deve fare un comunicato stampa? Ha fatto un comunicato stampa. Ha fatto Giorgio un comunicato stampa, una dichiarazione in video. Ma ha fatto una dichiarazione, l'ha detto. Giorgio da Fermo, Giorgio da Fermo, dai, non avete capito l'M voi. Giorgio da Fermo, vai. Dimmi. Sì, buonasera, senta, vorrei fare una domanda a Parenzo. Non c'è, è andato via ora. Dottore, no, c'è. Uscito. Lotto coglioni, trasmissione. Dato via. Dimmi via. Giorgio, dimmi. Senta, no, vorrei sapere perché è rimasto schifato da quello che sniffava la stazione. Beh, ti credo. Beh, chiunque, insomma, credo. Adesso questo qua come non è così credo, strano, perché? Però questo non è, però è soggettivamente, scusa, ecco, io posso appunto, anche essere abbastanza aperto su tutto. Però è giusto essere impressionati dal fatto che uno sulla banchina di una della metropolitana così pippa la cocaina. Scusa, caro Giorgio, evidentemente evidentemente sì. Giorgio, però io volevo dire, è uno, io volevo è un dire, cocainomane, mi sembra di capire, Giorgio, che tu sei uno che fa uso di cocaina. Nella migliore delle ipotesi. Io no, io sono contro la droga. E come voi siete a favore della droga? Noi non siamo a favore della droga. Spaventare per questo. Ma io non sono a favore della droga, caro Giorgio. Non sono. Liberalizzazione. Si chiama legalizzazione. Non sono. Legalizzazione. E non sono. Senti la voce impastata. Secondo me questo cosa si fa sicuro? Cioè, tu ti fai 100%. Ma che stai di i Gruciani? Ma che stai di? Secondo me al 100% posso dire. Comunque andiamo avanti. Sarai ubriaco. Un po' di alcol. Non sono ubriaco. Perché io volevo arrivare che siete anche a favore delle leggi con i gay e se si va c'erano per strada, non siete schifati? No, certo che non cosa siamo schifati. Cosa c'entra per pippare la come, cocaina? Come c'entra? Guardi, come aspetta, sarebbe aspetta. Dire, hai parlato che i tuoi figli si vergognavano per vedere quello sniffare. Per due che si danno un bacio non si vergognano? Ma non è la stessa cosa, sciocco che non sei altro! Non è la stessa cosa, me la girate come le pare. No, aspetta un attimo, Giorgio, fermo un secondo. Io sarei imbarazzato a spiegare ai miei figli chi è Giorgio. Aspetta, di questo sarei imbarazzato. Aspetta un attimo, fermo. Ci dovresti specchiare, tu. Fermo un attimo, allora Giorgio, secondo te due che perché si baciano non fare giri di parole, perché una volta dici una cosa, una volta dici ma un'altra. Ma non c'è ma nessun giro di parola. Due gay che si baciano non fanno niente cocaina. Di male, anzi si amano. Non si può sì, paragonare questo a uno che pippa un bambino, che cosa mamma gli spieghi? Che cosa gli si vogliono bene? Cosa gli spieghi, dice Giorgio? Cosa gli spieghi gli a tuo bambino? Gli dico che si vogliono bene, no? Rispondi a Giorgio, cosa gli spieghi? Due che si baciano, due gay che si baciano, non me lo chiedono perché sanno che è normale, i miei figli non me lo chiedono. Ma è normale. È perché i miei normale. Figli si vergognano. E perché? Scusa, che male perché c'è? Perché sono figli tuoi, infatti. Vai, si dovrebbero vergognare di te. Scusami. Aspetta, Giorgio. Sta rovinando l'Italia tu. Ma chi sta rovinando l'Italia? Scusa, sì, con lo tenello lì. Scusami, Giorgio. Con tutte le marchette che fa, una volta dice una cosa, una volta dice un'altra. Ma cosa c'entra? Scusa, Giorgio, io voglio capire una cosa. Dunque, siamo di fronte al fatto che se tu vedi due che si baciano con i tuoi figli, copri gli occhi ai tuoi figli, che succede? Come sai perché devo coprire gli occhi ai miei figli? Io... No, se vedi due che si baciano, due gay che si baciano, dico. Perché li ricopro? Perché evidentemente per te fa schifo due gay che si baciano. No, allora, diciamo una cosa. Ma ci possono essere altre persone. Allora qual è il problema? È che gli danno fastidio. Ma chi dà fastidio? Ma è giusto, se chiediamo la maggioranza dell'Italia, non sono tutti aperti come voi perché state lì in radio. Ma perché a te fa schifo quando due gay si baciano? Spiegami, perché ti fa schifo? Perché? A me può far schifo o no? Ma sì, ma perché ti fa schifo? Dimmi, perché? A me fa schifo, perché? A me mi piace la donna. Ma che c'entra che ti piace la donna? Allora, questi sono gusti tuoi. Sono gusti miei. Beh, io sto parlando perché sono gusti miei. Ma se due possono essere anche altri che hanno anche ma se due donne gli stessi gusti. Secondo me questo qua lo pigliano, alla fine lo piglio in culo. Però non è certo che come dite voi. Ma sempre come dite voi. Ti posso dire che questo lo piglia in culo, secondo me, Giorgio da Firmo. Secondo me lo piglia in culo. Secondo me. Tu ci credi? Secondo me ci credi? Sei convinto? Scusa, due donne che si baciano invece, come le prendi due donne? Lo stesso, non va bene, ma è bellissimo vedere due donne che si baciano, è meraviglioso. Ma chi, per te? Ma perché non ti eccita vedere due donne che si baciano? Ma a me no. Non ti eccita? Mi fa schifo. Ti fa schifo vedere due donne che si baciano? Ma certo. Sei malato. Certo, posso dire che sei malato? Sono malato a un io? Uomo cui non piacciono due donne che come? Si baciano. Ai gay non si può dire malati, a me mi dici che sono malato. Ma se non ti piacciono due donne che si baciano, non ti eccitano due donne che si baciano? Ma gli altri, come hai detto, gli altri non si può dire malati, a me mi dici che sono malato. Ma sei patologico. Ma sono pure patologico. Patologico. Va bene. Sì. Fate i sondaggi, fate i sondaggi. Che sondaggio? Non occorre fare sondaggi, basta sentirti, non occorre. A me. Sì, a chi? A me? Fermi tutti. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. La mia mente era turbata, non sapevo proprio chi votare a queste prossime elezioni regionali, quando un lume, una voce mi ha illuminato la via. Conte Dolfin, votiamo tutti il Conte Dolfin. Per quelle case rimaste chiuse ad oggi, che è giusto che vengano riaperte, vota il Conte Dolfin. A me non risulta che le coppie cuckold siano di sinistra. Sì. Io ne ho incontrate di tutti i credi politici, tutti. Coppie scambiste. Però posso dirti con certezza, sì, che almeno il 50% delle coppie cuckold d'Italia stanno in Lombardia. Per qualche strano motivo voi lombardi amate avere le corna. E che no, possiamo fare noi? Non è così. Vi accontentiamo in un modo o nell'altro. Più bella scopata della vita me la sono fatta con una coppia di lombardi frontalieri, lui sovranista, e la cosa più divertente è che amava vedere la moglie scopata dai terroni. Amico mio, quello è stato veramente il top. Allora, posso dirti, caro amico che hai mandato questo messaggio, qual è la realtà? Perché ci sono molte più coppie scambiste a parità di numero di abitanti al nord piuttosto che al sud? Il grande studio sociologico, David, il grande studio, certo, della realtà. Perché ci sono? Semplicemente perché qui, diciamo, c'è una mentalità, magari non, le differenze si sono assottigliate, ma una mentalità più aperta rispetto a quella magari della Basilicata, no? Cioè, se la Basilicata avesse lo stesso numero di abitanti della Lombardia, avrebbe un numero di coppie scambiste inferiore, semplicemente perché, come dire, i costumi sono leggermente diversi, diciamo, anche se le cose, ripeto, le differenze si stanno assottigliando. Ma ragazzi, vi voglio presentare alle 20:20 del 17 di settembre un grandissimo personaggio. Allora, innanzitutto è una figa pazzesca. Possiamo dire che è una figa pazzesca? La signora Aurora Marchesani, che è qui in studio. Non so chi sia. Che è qui in studio, la puoi vedere benissimo. Non la vedo, benissimo. Perché no, tutti gli schermi pensate come siamo purtroppo messi. Purtroppo, vado a cercarla su internet. Allora, Aurora modella Marchesani. Classe 1985. Vabbè, l'età non diciamola. Playmate. È stata sulla copertina di Playboy. Due copertine di Playboy. Mondo V, Ariete, ascendente Sagittario, nasco, sì, come cantante, benissimo, fino a qui, sì, per motivi personali decido di farmi fotografare a partire dal 2007, anche qua perfetto. Attraverso due copertine percorso di Playboy, lascia perdere la lettura della biografia, due copertine di Playboy, ma il motivo per cui l'ho chiamata qui è che è diventata negli ultimi tempi, sì, una grande negazionista del Covid, pure, amico mio, una grande negazionista, pure, e anche contro la vaccinazione di massa, anche crede nell'esistenza degli UFO, pensa che ci sia una dittatura sanitaria, porca puttana, pensa altro che ci stanno sostanzialmente fottendo la vita, giusto Aurora? Pazzi. Giusto o no? Benissimo, le ho tutte, cioè sono proprio l'anticristo quasi, quindi. Ecco, ma è vero, già o no? Prima. È vero o no questa cosa? Innanzitutto no, sei anche cartomante, sei anche sì, cartomante. Sì, anche no, sono proprio una strega bruciata a rogo in tutti gli effetti, cartomante, perché se già prima appunto magari non ero proprio ben vista già solo nel nucleo familiare perché facevo un sacco di foto nuda, adesso certo, poi con questo ecco, ma che vuol situazione dire che sei negazionista del Covid? Cioè, sì. Pensi adesso tu odi la mascherina, giusto? Ah, la detesto assolutamente. Non la porti? Non no, mai, perché c'ho l'ansia, mi viene veramente da soffocare. Quindi ma non pensi la che ci sia una dittatura sanitaria che ci impone delle regole, che ci sta portando verso il controllo mondiale, il nuovo ordine mondiale di cui parliamo? Assolutamente sì, nel senso, io sono cose che diciamo studio con passione da anni e anni e anni. Mi occupo appunto di quella che è chiamata controinformazione o complottismo. Quindi sono una complottista nel dunque DNA. Dunque tu pensi sostanzialmente, sì, scusami, io però quando ti guardo davanti a te non riesco, sì, che tu sei venuta qui con questo, quanto porti di, diciamo, lo so, faccio la parte del vecchio porco, quanto no, porti intanto di... intanto devo dire una cosa, tutta natura. Io penso di essere una delle poche playmate, a parte l'unica italiana che ha posato per due cover in Romania, e tutta naturale. Tutta quindi naturale, quanto porti? La quarta terza, naturale. Terza, la terza naturale. Terza. io voglio capire una cosa, cosa c'è dietro, cosa c'è dietro il vaccino secondo te? Ma che ne sa lei? Cioè, cosa c'è? No, ma ha studiato, ha letto. Ma che ne sa lei di cosa, cosa c'è dietro il vaccino? Parlasse di quello che sa, Playboy, le foto nude, eccetera, vero, non si avventuri. Ma non devi dire vero, devi dire vero, devi dire vero. Parenzo, sei uno stronzo perché vuoi la vaccinazione di massa. No, questo no, questo la vaccinerei io, la signora Marchesani, la vaccinerei io direttamente. No, non ce la proprio posso fare neanche il tampone, quindi non mi tamponate. Cioè, io non ho capito una cosa, tu sei contro i vaccini di qualsiasi tipo? Soprattutto questo è abbastanza fastidioso. Sì, influenza, assolutamente. Ma sì, totalmente fastidioso, inutile. Tutti gli anni viene fatto, che è fastidioso, io lo faccio tutti gli anni. Vabbè, a me non piace, quindi. Ma io non lo credo, che c'è dietro? Cosa c'è dietro, secondo te? Dietro c'è, secondo me, cioè, secondo tutti quelli che un po' la pensano come me, c'è questo complotto di estremo controllo, quindi chissà che cosa viene iniettato attraverso questo vaccino. E che interesse c'è a iniettare delle cose può strane. Essere che ci siano anche delle nanotecnologie che vengono iniettate e che vanno appunto a interferire con le antenne 5G. Come l'abbiamo detto, con le antenne 5G, sì, non l'ho capito. No, cioè, allora aspetta, ricostruisci un altro che non ho capito. La ricostruzione è questa, ci iniettano delle cose dentro, delle nanoparticelle che vanno a interferire con le antenne 5G? Quello è. È un telecontrollo, un telecontrollo disumanizzazione. Il telecomando ce l'ha Rothschild. E chi ce telecomando il telecomando ce l'ha appunto il vertice della piramide, e chiamateli come volete, che siano illuminati, che siano massoni, le elite abbastanza criminali, e quindi questo, in questo modo tu che lei pensi... come si informa? Guardando quali trasmissioni? Mi dica solo, lei non guarda in onda, no, giusto? No, io leggo un sacco. Ah, ok. Però mi rassicuri, per piacere, lei non guarda la 7 ad esempio, corretto? No, io guardo tutto, guardo tutto, però poi lei conosce un programma che si chiama In Onda, per esempio. Conosco anche In Onda, sì. In Onda, con Telese e Parenzo. Lo conosce, che cazzo vuoi? Se lo conosce, non lo conosce. Guardare. No, se volete non lo guardo. No. Guardo. Lei guarda Del Debbio, per caso? Guardo anche Del Debbio. Io guardo chiunque. Mario Giordano. Voglio dire, quando sfreccia sui banchi a rotelle, è favoloso. Si informa solo con Mario Giordano. Allora, io voglio capire una cosa. Tu pensi che al vertice di questa piramide ci siano delle famiglie che guidano il mondo, dei potenti che guidano il mondo? Questa, diciamo, sì, è la letteratura in cui io credo. Penso che ci siano comunque degli elementi che possono essere abbastanza inconfutabili. E le antenne 5G dunque sono guidate, le vogliono mettere apposta per controllarci. Sì, e sono spuntate come funghi nel momento in cui noi dovevamo stare a casa, chiusi, tappati, eccetera. Mi e io sono testimone di questo. Mi scrivono in questo momento. Nel senso che a me sono calati in testa dei droni, perché mi sono permessa di fare quattro passi da solo in un bosco dove non c'era nessuno. Perché controllavano le persone che giravano. No, invece dove stavi andando? A fare fitness. Invece sono stata inseguita come una criminale. Che voglio dire, se era una criminale. Ma che c'era là vicino, qualche antenna? Assolutamente sì. È stata montata dopo. È stata montata dopo per controllarci. Sulla sommità dove io dovevo arrivare, non sono potuta arrivare. E nel momento in cui hanno di nuovo aperto le carceri, perché alla fine la casa era diventata un carcere, io sono riuscita di nuovo a ripercorrere appunto questa strada nel bosco. E mi sono trovata questo mega antennone 5G per dire che ci vuole controllare tutti. Ma lei il cellulare lo usa? Il cellulare 4G lo usa? Sì, il 4G. Sì, ma anche quello, quindi 4G lo usa. Il 4G va bene, il 5G no. No, 4G il 5G va bene, non però mi piace, il 4G ho capito, il 4G le piace. Ma lei si rende conto delle stronzate che dice o no? Assolutamente sì, ma ne sono convinta di quello che dico. No, ma la cosa è drammatica è che le ho chiesto, lei il 4G lo usa? Dice assolutamente sì. Il 5 no. Certo, è per forza, e lo devo usare per forza, se no non sarei. Mi scrive un grande dirigente aziendale che si chiama Gabriele, non posso dire il cognome, un mio cugino, mi dice: avrei bisogno di una come lei nel mio team, fatti dare il suo curriculum vitae, per piacere. Beh, devo dire la verità che è difficile andare contro, io non credo in nulla di quello che dice la signorina qui presente, però lo dice con una tale grazia, con questo sei corpo arrapato, così prorompente, amico mio. Poi arrapato. No, non sono arrapato, però devo dire che ha dei piedi da 8. Ma chi se ne frega dei piedi? Ha il secondo dito leggermente più lungo dell'alluce. Ma chi se ne frega? È leggermente più lungo. Sì, sì, è leggermente. Fammelo vedere un attimo. Tiralo su un secondo, scusami. Eccolo qua. Sì, no, il piede. Ha il secondo dito leggermente più. È stupendo, il piede. Però il secondo dito è leggermente più lungo dell'alluce. Ha la testa come i piedi, però no, purtroppo. Scusa un attimo, la dittatura sanitaria da chi c'è imposta? Cioè, secondo te è sbagliato anche questo distanziamento? Totalmente sbagliato. Cioè, c'è imposto per quale motivo questo distanziamento? C'è imposto perché noi fondamentalmente non dobbiamo più interagire, dobbiamo essere gli uni contro gli altri e non possiamo più riunirci per pensare. E chi lo vuole questo? sempre le solite elite, sempre, che, elite, sempre quante loro, cose sempre vogliono loro. Queste elite vogliono romperci le palle e noi ci dobbiamo ribellare. Assolutamente. Ma gli UFO che c'entrano? Ecco, gli UFO sono al vertice della piramide. Come al vertice della piramide? Assolutamente. Come gli UFO? Cioè, ma non c'erano i Rothschild? Sono pure gli UFO sono al vertice. I Rothschild sono ancora sotto. Cioè, e sopra chi c'è? E sopra ci sono entità non umane. Ah, entità non umane guidano il mondo. Assolutamente. E per fare che queste entità non umane? Che cazzo vogliono? Per il controllo totale. Ma tu veramente credi in queste cose qua? Tu hai fatto due copertine di Playboy e credo in questo. Cioè, hai fatto due copertine di Playboy e credi negli UFO che guidano il mondo. Ma vi rendete conto? Fammi le carte. Fammi le carte. I tarocchi, cioè mani tarocchi. Andremo via da Radio 24. Questo baraccone andrà via da Radio 24. Sì o no? Facciamo le carte. Tu andrai via da Radio 24? Sì, io sì. Musica. Però devi pensare intensamente a quello che mi stai chiedendo. Questa trasmissione emigrerà altrove? Ok, allora. Puoi pescare una carta o per il distanziamento Covid anche no, quello? No, la posso pescare, Aspetta, musica, allora, aspetta un attimo. Eccola qua, fermo qua, fermi che pesco. Musica. Carta secca, vediamo. Urca. Pescata. Aspetta. Il sole. Dunque? Il sole è una carta di estremo successo. Schiarita, assolutamente è una carta di collaborazione. Quindi qualora tu decida di voler andare via, tu andrai via, tu farai quello che vuoi col sole. Ma questo grazie al cazzo. Ma sei peggio di Odelma. Ma se voglio andare via andrò via. Ma grazie al cazzo. Beh, non sempre, potevo uscirti l'appeso. Cosa facevi con l'appeso? Mi sarei gatta di coglioni, posso dire la verità. Voglio capire, dunque, è uscito il sole, andremo via da questo baraccone o no? Questo sì, è il punto. Andrete via. Questa è la sentenza. Queste sue parole definitive. Beh, pescale una anche per me. La prostata, quando è che entrerà? Cioè, mi funzionerà bene, sì o no? Prostata mi devo concentrare un po', se ti devo dire. Magari devo leggerti la mano, però non si può perché c'è il distanziamento. Beh, adesso fra poco possiamo fare qualcosa. Fermi tutti, torniamo tra poco. Adesso mi legge la mano per capire se la mia cazzo di prostata funzionerà e fino a quando. Fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, ho sentito il radioascoltatore che non ha capito bene la mia tecnica del pompino tra risucchio, ingoio, ma ti posso dire che io quando faccio il pompino non lascio una goccia, è completamente tutto asciutto e pulito, non ti devi fare neanche il bidet, guarda. Quindi io non faccio distinzione fra succhio, risucchio, ingoio, è tutto perfetto, sono proprio spontanea nel farlo, quindi posso dire che sono il top dei pompini. E poi voglio dire a Parenzo che a me mi stanno cercando anche dall'Australia. Capito, Parenzo? Ciao Cruciani! Sempre ho saputo Simona, che Simona ha rifiutato il confronto con me. Vero, come? Tutto vero. Non era Madame Pompadoro? Non so, è una codarda, guarda, è proprio una codarda. Vai. Simona, vieni a confrontarti con me sul pompino, vieni cara, che sei tutte chiacchiere e distintivo. Beh. Avanti, vieni, perché rifiuti il confronto con me? Perché? Ma guarda, non ho parole, lasciamo perdere, va, tu te si è rubata la mia identità, nome, città, età, che sfida, e arte, perché il pompino lo faccio io con ingoio, non tu Simona. Io sono la regina dei pompini, caro Cruciani e caro Parenzo, ma soprattutto caro Parenzo, che ha rifiutato comunque gratuitamente di provare la mia arte. Cruciarenzo! Allora ragazzi, torniamo in studio annunciando forse per domani questo mega confronto, questo mega scontro tra le due Simona. Che ti ricordi, c'erano le due Simone che erano due che erano state rapite. Quella era un'altra storia. Qui invece, in Iraq. Esatto, bravo. Qui invece ci sarà il confronto tra le due Simona. È un'altra storia. Dimmi, coinvolgi la nostra ospite su questa discussione. Il pompino, come va fatto? visto che è una playmate. No, ragazzi, no, no, no, no, no. Scusami. No. E magari si sente esclusa da questa discussione. Allora, posso dirti una cosa? Gli ospiti... augusta discussione. No, no, no. Tu sei il solito maiale. Gli ospiti sono stati invitati per un motivo e non voglio chiedere alla signorina qui presente, non glielo voglio chiedere, se i pompini migliori sono con l'ingoio o senza ingoio. Mi posso permettere di non chiederglielo se i pompini migliori sono con l'ingoio o senza. Ancora? Abbiamo capito, basta. Non glielo voglio chiedere. Ma allora basta. Non glielo voglio chiedere. Non glielo voglio chiedere perché se un'altra volta, se vogliamo parlare di sesso, la inviterò e parleremo di sesso apertamente. Adesso mi deve fare, mi deve leggere la mano. Musica maestro, un attimo, mi deve leggere la mano. Allora, abbiamo trovato che la tua mano non me la puoi toccare, che qui c'è il distanziamento del cazzo. Appunto. Prima ho esplorato i piedi, ho esplorato i piedi, che ti prego di me. A distanza, per carità. Ho esplorato i piedi e devo dire, ti do un piede mentre ti leggo la mano, favoloso. Sì, allora, piede, devo dire la verità, a parte il secondo dito che è più lungo e dunque non è nelle mie, diciamo, tra i miei piedi preferiti, però il resto è abbastanza buono. Devo scendere di voto, non è 8, scusa, devo scendere di voto, 7. Mamma mia. 7 perché le unghie non hanno, non ci sono calli, non ci sono interruzioni, non ci sono cipolle e cose varie. Allora, la mia mano velocemente. Molto bene. Allora, la tua mano velocemente è una mano di una persona senza complimenti, picchia duro. No, estremamente longeva. Io intanto mi tocco a pelle, scusami, uno che dice estremamente longevo, mi tocco il completo. Estremamente longevo. A pelle. Questo è un ascendente scorpione già scritto qua. Sì, poi? Cioè, tu non puoi stare senza condividere dei momenti di forte passione. Sì. Cioè, fondamentalmente, però sai che sono una signorina e ne vedo tanti. Però sei molto esigente. La vita è lunga, secondo te qua? La vita è lunghissima, quindi avrai modo, diciamo, di dispensare il tuo sapere, la tua passione ovunque. Poi vedo la prostata, si può dire qualcosa sulla prostata? Ma no, ma la prostata mi verrà avrò problemi alla prostata? Assolutamente no, qua non ci sono problemi di salute, cioè ce li dobbiamo inventare, capisci? Quindi non va bene, però devi fare attenzione, ecco. Perché qua si vede che tu hai un delle tendenze. Di che tipo? Delle tendenze passionali molto particolari. Non ho capito, lo piderò in culo, non ho capito. No, quello non credo, però diciamo che ti piace parecchio sessualmente avere delle esperienze molto forti. Però scusami, questa cosa qua, anche, ancora una volta, caro Parenzo, e ringraziando la signora Aurora Marchesani di questo gentile contributo, anche qui non ci voleva la signora Marchesani. Bastava leggere qualunque rivista di gossip, si trova molto di più rispetto a quello che lei stessa indicata. Ecco, io non ho fatto ricerche su Cruciani, ecco. Grazie Aurora Marchesani, grazie. Ciao a tutti, grazie. Playmate, tu copertina di Playboy, negazionista del virus. Vai. E via, vai. Allora ragazzi, io chiamerei a questo punto sulla questione dell'imene, cioè sulla questione della verginità, chiamerei fra poco il nostro amico dottor Viale, perché mi ha riferito, adesso lo chiamiamo per una conferma, che lui queste dichiarazioni le ha fatte, cioè lui ha fatto delle dichiarazioni di verginità, cioè richiesta di qualche donna. Va da lui e dice: mi può fare una dichiarazione di verginità? Ricordiamo che è il ginecologo dell'ospedale di Torino. Detto dottor Morte. Attivista. Però radicale. prima di chiamarlo per recuperarmi il numero, Matteo da Roma. Vai Matteo, dimmi. Dimmi Matteo. Dimmi. Allora, volevo raccontare un'esperienza che mi è capitata oggi. Sì, dimmi. Ho incontrato una coppia che mi hanno contattato su un'app. Sì. Cioè una coppia scambista? Sì, non proprio coppia, perché erano due amici, maschio e femmina. Sì, allora? In pratica. Erano raccontami la roba musulmani. Vera prima che ti mandano a fare in culo. È vero, mi è capitato oggi. Allora? Erano musulmani. Bah. E nel mentre stavamo nell'atto, lui mi dice: guarda che lei da davanti è vergine. Sì, vabbè, mio nonno. E poi te lo giuro su Dio. Te lo giuro. Sì, mandami gli screenshot 393 71 71 701. Mandami gli screenshot di quale coppia è. E se l'hai trovata su qualche sito, su qualche app. No, mi hanno contattato loro. Sì, mio nonno in carriola. Te lo giuro. Vai, ciao Matteo. Ciao. Chiamatemi Viale, detto il dottor Morte. Non so quanti aborti fa al giorno e soprattutto credo che abbia firmato delle dichiarazioni di verginità a qualche donna che lo chiedeva. Dibattito in Francia, come sapete. I was born a fire, baptized in sweat. I walk along where the sun sets. My heart. Pronto? Viale? Sì. Sono Cruciani, come andiamo? Grandissimo. Abbastanza bene, dimmi. Ecco, ma voglio sapere come una cosa. Come stai, dottore grande? Come sta? Bene, ti ho detto abbastanza bene che te lo deve ripetere 40 volte. No, ma mi fa piacere, dottore. Viene sempre chiamato dottor Morte, il grandissimo Viale, grande radicale, grande dottor compagno Morte radicale. Perché fa sempre aborti, che c'entra? Grande compagno radicale, liberale e libertario. Ciao, grazie, dottore. Allora, non ho capito. Silvio, voglio capire una cosa. Ma tu hai mai fatto delle certificazioni, dei certificati? Hai mai firmato delle cose di verginità? Una specie di dichiarazione allora, di verginità? Certificati di verginità così come tali non esistono, no. Dichiarazioni in cui veniva chiesto di certificare una sorta di verginità per chi doveva sposarsi, la famiglia, il fidanzato, e via dicendo, ho scritto, come si fa in questi casi, quello che vedi, cioè che è genitale. Ma su che carta? Su che carta? No, su un ricettario normalissimo. Come cioè, su un ricettario qualcuno ti ha chiesto di certificare la verginità di una donna? Ma esattamente, qualcuno mi chiede di certificare di per la palestra la dichiarazione che può fare la sauna, per dire, ho scritto che i genitali esterni erano integri, punto. Dopodiché certo, uno interpreta cosa vuole. Ma non ho capito, ma perché te l'hanno chiesto? Certo che non vuol dire nulla, ma che, strano, perché te l'hanno chiesto? Una signora ricordo, perché doveva tornare al suo paese e sposarsi in un matrimonio combinato, e nel contratto c'era scritto che doveva portare una dichiarazione medica che fosse vergine. Ovviamente quella non era dichiarazione che fosse vergine, ma poteva essere interpretata così. Io non ho nessun motivo per no, per andare contro. Ma come si spiega sta voglia della gente? Questo non capisco. La voglia della gente, ma, non c'è nessuno che adesso si fa fare le dichiarazioni di verginità. Dichiarazione di verginità non c'è la stupidiata. Diciamo che c'è un po' di convinzioni culturali in giro, che si può vedere se la donna è vergine oppure no, e in qualche modo questo viene. Ma poi tra l'altro questa fissazione io non la capisco. A me che cazzo me ne frega se uno è vergine o no, anzi peggio se è vergine, cioè qual è la fissazione? Non riesco a capire. Per me se è vergine è peggio, cioè io voglio stare con qualcuna che non è vergine, che già sa fare le cose. Ma per tutti dovrebbe essere così. Ma chi è il malato che vuole una vergine? Cioè bisogna essere malati di mente, una illibata, allora, vergine bisogna essere. Fino a pochi anni fa gran parte degli italiani, tant'è vero che ancora adesso nelle feste di matrimonio si espone il giorno dopo il lenzuolo sporco. Ma dove? Ma dov'è che si espone? Ma io ricordo in qualche paese della Sicilia profonda o non so di quale. Quando... sì, sempre meno per fortuna nei nostri livelli culturali. In giro per il mondo, dal Sud America all'Africa. Sì, è una roba da malati di mente. Non capisco perché in Francia la vogliono tenere alcuni. Cioè, ci sono alcuni ginecologi che fanno il tuo stesso mestiere che vogliono tenere questa assurdità. Cioè, chi fa questi certificati, secondo me? Adesso tu li hai fatti un po' così, te li hanno chiesti, No, te l'ho chiesto, li faccio, non è che devo dichiarare. Ma cosa hai scritto? Cosa hai scritto su queste cose qua? Cosa hai scritto? Si dichiara che la signora Tazzetali, i genitali esterni sono integri, punto. Cioè i genitali esterni sono integri, cioè vuol dire che cosa? L'imene, che cosa? Si intende cosa vuole, può anche scrivere l'imene, dopodiché uno può avere l'imene integro e aver avuto rapporti tutto andare, può mai aver avuto rapporti ed avere l'imene con delle fastidiature che sembrano. Però di solito, scusa, tu che sei un esperto, di solito se uno ha l'imene è consumato si ha avuto rapporti, c'è poco da fare. Ci sono donne che si prostituiscono, te lo dico chiaro e tondo, e hanno genitali esterni integri e un imene praticamente integro. Dipende, è compiacente, dipende da cosa. Non è così automatico che la violenza del rapporto debba rompere tutto. Né? Ma che conversazione è? Un culturale vecchio. No, ma perché qualcuno è fissato, conversazione al di là delle, soprattutto per motivi religiosi, magari è fissato ad avere la propria donna, no? con l'imene integro stretta. No, vuole essere il primo, più che altro vuole illudersi e pensare di essere il primo. Ma tu ti rendi conto? Tu non sei stato il primo per nessuno. Hai mai sverginato qualcuno tu, David? Chi? David, tu hai mai sverginato qualcuno? No, ma ti pare che risponda a domanda? Ma che discussione è questa cosa? Hai mai sverginato qualcuno o no? Manco per niente. Ma come, no, hai mai sverginato qualcuno o no? Chiedimi qual è. Forse chiedimi... a tua insaputa. Non metterti anche tu, però, dottore. Io per esempio posso dirti per forza. No, posso dirti che sicuramente mi ricordo una. Non posso dire purtroppo Lei mi ha detto che era la prima volta che dire. Tu l'hai creduto, tanti anni fa in Sicilia, ero giovane pure io, quindi c'era un contesto culturale. culturale. No, era vergine, aveva 15 anni, 16 anni. 15 anni avevi, tu 50, vergognoso. 15 anni aveva, lo hai confessato. Avrà avuto 17, 18, non mi ricordo. In Sicilia ci hai creduto. Fosse stato in Olanda non ci avresti creduto, punto e basta. Sì, posso dirti una cosa, io non ho la fissazione dello sverginamento. Parenzo invece ha questa fissazione qui. Ma stai matto, e sei? Si illude di essere stato sempre il primo. Ma si io illude. Ti querelo, io sono l'unica trasmissione che querela l'altro conduttore, ma non c'è ombra di dubbio che ti porto via tutto. Vergognati, io non mi occupo di questi argomenti. Ma che vuol dire non ti occupi? Potrai dire non mi nella tua testa di ti ricordi argomenti. Qualcuna che hai sverginato? No, io mi ricordo. Non ti ricordi nessuna che hai sverginato. Chiedimi ad esempio cosa apprezzo di Shakespeare. Posso ma che dire me ne cosa frega me, stiamo parlando di un'altra cosa. È un argomento. Hai mai sverginato qualcuna è o no? Un argomento. No. Cioè, ci stai no, dicendo che le tue donne erano tutte quante. Tutte le donne che hai avuto hanno già trombato la grande. Non ho detto questo. Questo l'abbiamo detto. No, è un argomento di nessun interesse. Scusi, dottor Viale, lo possiamo dire? No, lo possiamo dire questa cosa qua. Tutte le donne con cui è stato Parenzo ma non erano, è vero. erano già state, come dire, no, pizzicate. Erano già. Parenzo non gliel'ha chiesto e la domanda nessuna risposta. Sì, ma hai mai trovato difficoltà nell'atto sessuale, David? Hai mai avuto delle difficoltà di entrata, fare diciamo, da di 10 anni questa trasmissione? Questa comunque, è la difficoltà. Possiamo che dire, caro Viale, che questa roba qui è una roba barbara, è una roba medievale, una roba antica. Infatti, la Francia non ci fa bella figura, ma sul piano scientifico. Beh, che l'hai fatti pure tu i certificati di virginità. Ma io ho fatto i certificati che dichiaravo che la signora era vegetariana. Okay, ma che cazzo l'hai fatta fare pure te? Scusa, perché sul ricettario hai scritto questa roba perché, qua perché radicale. Serviva quella signora perché devo dire alla signora di andare a un matrimonio di sposarsi perché devo farci una prova che vai lì e certo. Non te lo faccio non lo ma perché è una follia. Senti, scusami al volo, quanti aborti hai fatto oggi, così tanto per dare un numero, una cifra, quanti aborti oggi? Oggi è un giorno in cui da noi abbiamo fatto 8 aborti farmacologici. D'accordo. E soltanto 2 chirurgici. Una decina. Più abbiamo attivato un paio di procedure oltre il 95 giorno, quindi una dozzina di aborti così. Allora, così il punto del giorno. Perché non facciamo ogni giorno un punto col dottor Viale su questo? Per questo rilanciare 12 una aborti al giorno e ti levi un problema di torno. Adesso questo forse è eccessivo. Questo forse è un po' troppo. Però la nuova rubrica che lanciamo questa sera su questa radio, di cui non possiamo dire il nome, dove siamo. Perché abbiamo il decoro della Confindustria che ci ospita. Ogni giorno da stasera faremo un aggiornamento col dottor Viale su quanti aborti sono stati fatti al giorno. Dai, che funziona! Dai, io porto in diretta! Dai. Naturalmente, questa è una grande idea. Naturalmente. Cioè, fare seguire l'aborto secondo per secondo. Naturalmente potremmo candidare alla conduzione del professor Savona. Professor Savona, che bravissimo. Bravissimo, è anti-europeista. Perché voleva fare abortire l'Europa, invece facciamo abortire l'altro, dai, sempre di aborto sì. Si tratta, dai. Sì, vero. E poi seguire con una telecamera secondo per secondo l'aspirazione del feto, naturalmente. Poi tutta la cronaca come X Factor, mettiamo Adinolfi naturalmente dallo studio collegato che inveisce, bellissimo, un grande anche show. Anche Meluzzi si va subito alla Rai a proporlo, vado subito, dai. Vai, che esci, funziona, esci, arrivederci, vado via, dai che funziona. Vabbè, va, ciao. Ciao a tutti, ciao grande. Dai che funziona, dai, bellissimo. Fermi tutti, ragazzi. Comunque è bellissima l'idea, eh. Il conteggio quotidiano degli aborti di Viale. È venuta così. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io urlo la verità @gmail.com. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.